forse non sono ancora maturi, anche se c'è necessità di fare tutta una serie di altri scali, c'è la necessità di approfondire tutta una serie di altre aree per capire bene i meccanismi attraverso cui si sono sviluppate iniziative, in cui sono cresciuti determinati personaggi. Ecco, indipendentemente quindi dal fatto che forse è necessario ancora avere altri elementi, io ritengo che sarebbe opportuno ridisegnare, cercare di individuare perlomeno un filo rosso unificante della scienza italiana del Seicento, verso cui poi fare in qualche modo riferimento per potersi in qualche modo appesare, perché diversamente il rischio che si corre continuando a studiare la realtà della scienza italiana del Seicento è quella lì veramente di continuare a muoversi in ambiti specifici, con realtà specifiche, anche se questo, ripeto, è fondamentale, senza quello non si può fare assolutamente nulla. E tuttavia sono convinto che forse un tentativo di rimeditare in termini generali che cosa è successo praticamente sul problema della scienza dell'area del Seicento deve essere in qualche modo tentato. Cioè, non si riesce, secondo me, a fare un balzo successivo in avanti se noi a questo punto non ci poniamo un problema di carattere, diciamo così, un'esigenza di sintesi, un'esigenza che in qualche modo passi attraverso l'individuazione di questo filo rosso che comprende un atteggiamento di tipo metodologico, cioè individuare degli aspetti specifici e su questi aspetti specifici poi anche atteggiarsi in senso metodologico, effettivamente se forse tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi ci consente questo approccio complessivo o se invece questo approccio complessivo può passare attraverso delle letture diverse. Parlo in qualche modo reduce da ricerche sul 700 che in qualche modo lì è stato possibile tentare delle operazioni unificanti passando attraverso dei tagli particolari. Questa operazione di comprensione del ruolo della scienza, ad esempio, nella cultura italiana del 600, a mio modesto avviso dovrebbe prendere spunto da ricerche in qualche modo analoghe fatte per altre realtà. Mi riferisco soprattutto all'Inghilterra, cioè i modelli a cui in qualche modo io faccio riferimento sono le grosse opere di Webster, i lavori di Jacob, i lavori, cioè tutti quei lavori che hanno in qualche modo cercato di percepire il ruolo della scienza in termini non soltanto sono andati veramente a percepire gli avanzamenti, i regressi, i progressi, cioè una lettura tutta interna, che è fondamentale, senza quella non si fanno passi avanti, ma hanno colto anche questa valenza immediatamente politica, immediatamente ideologica, in senso più lato, culturale, che ha consentito di tirare un filo rosso, di percepire i ritmi. E allora abbiamo avuto grosse opere che in qualche modo, rispetto alle quali in modo la gente può atteggiarsi, può confrontarsi, può avviare ricerche successive, perché è del tutto evidente che sulla Toscana abbiamo un lavoro di scavo che è notevole, ormai le cose grosso modo sappiamo come sono andate, per la realtà napoletana altrettanto, la realtà napoletana è decisamente abbastanza conosciuta, evidente per quello che può essere il livello attuale della ricerca storica, poi ci saranno da approfondire tutta una serie di altre cose. Su altre realtà locali italiane, il lavoro è stato avviato e in alcuni settori si sta andando anche avanti, però ci manca, secondo me, ed è questo uno degli elementi che vorrei porre all'attenzione della discussione, anche alla luce proprio dei contributi specifici che ieri sono venuti su queste realtà specifiche, il tentativo, forse il tempo è prematuro, è ambizioso, però dovremmo porci il problema di vedere se esiste effettivamente un punto da cui partire, un filo rosso da identificare che ci consente di fare questa operazione. Io devo dire, sono convinto che, però questo è un modello che io ho studiato per il 700, può darsi che per il 600 funzioni relativamente, però certamente la realtà italiana che in qualche modo ha sempre avuto, proprio per istituzionalmente, per problemi di posizionamento geografico, cioè il problema romano, il problema della Chiesa, il problema veramente del controllo e della gestione da parte della Chiesa in termini positivi o negativi, in termini di funzione interna, il problema del rapporto scienza-religione a Roma. Cioè, in sostanza, il mio obiettivo è quello di dire: noi oramai sappiamo abbastanza sulla scienza dei gesuiti, anche se dobbiamo continuare a fare tutta una serie di scavi. Esiste il problema che all'interno dell'area romana all'interno dell'area degli ordini religiosi vi è una evidente conflittualità. Cioè, noi abbiamo ordini religiosi che si atteggiano in una certa maniera, altri ordini che si atteggiano in altra maniera. Sono poi delle organizzazioni, delle istituzioni in genere sovranazionali, e questo consente la circuitazione di tutta una serie di testi, perché poi il problema fondamentale, secondo me, è quello lì veramente di fare lo sforzo di collegare la realtà italiana al dibattito europeo. Cioè, noi nel 600 abbiamo tutta una serie di tensioni irenistiche, tutta una serie di tensioni di carattere così religioso, politico, che sono legate veramente a dimensioni ormai sovranazionali. Roma, proprio per il fatto che è un centro internazionale, favorisce di per sé stessa la circolazione di idee scientifiche. Io sono evidente, facciamo caso, Tommaso Cornelio, lui in qualche modo prende contatto con gli stessi cartesiani a Roma e poi li porta a Napoli. Cioè, sostanzialmente, l'osservatorio, chiamiamolo così, l'osservatorio che ruota attorno a Roma, consente, secondo me, delle operazioni in qualche modo discriminanti, consente di individuare dei fili rossi, sempre in termini problematici, non vorrei che fosse percepita questa mia esigenza, nel senso di dire facciamo una sintesi, vediamo cosa cavolo succede. No, in realtà il mio problema è quello lì di privilegiare un osservatorio, privilegiare dei temi e rispetto a quelli cercare di ricondurre ad un minimo di problematicità e unitarietà il problema della scienza settentrionale. Perché esiste un problema di periodizzazione. Cioè, davvero si riesce difficile credere che tutta la realtà italiana, proprio per questa sovrastruttura nazionale che è la Chiesa, che è l'unica sovrastruttura veramente che è presente in tutti gli stati, poi si atteggia in maniera diversa in alcune realtà, però è una sovrastruttura, è un punto di riferimento comune in varie realtà. È un osservatorio privilegiato, oggettivamente quindi si pone come osservatorio privilegiato. Andare a vedere il problema dell'atteggiamento degli ordini religiosi rispetto alla scienza, la fruizione del controllo e dell'uso anche ideologico, che nel 600 diventa evidente, il caso Galileo, insomma, diventa evidente di una fruizione della scienza in termini di controllo culturale, questo è un grosso problema che secondo me deve necessariamente cominciare ad essere affrontato in termini un po' più generali. Le realtà locali certamente sono hanno tali e tanti elementi di originalità da sconvolgere molte volte questo tentativo di unificazione. Però, secondo me, il valso che oggi si pone alla storia della scienza italiana, degli studiosi del 600, è di avere perlomeno un elemento di confronto che passi attraverso un tratto unificante. Quale sia questo tratto unificante? Io ho parlato di Santa Romana Chiesa, ho parlato di questa struttura sovranazionale che di per sé stessa è un osservatorio privilegiato, implicito, è evidente. Questa sovrastruttura che garantisce canali internazionali, e io su questo insisto molto, perché i canali internazionali che veramente tutti i viaggiatori che si recano a Roma, tutta la possibilità, gli stessi collegi gesuitici, ecco, queste strutture sovranazionali veramente consentono operazioni di trasmissione di idee. Noi, si diceva, adesso si comincia un pochettino a vedere il problema delle traduzioni delle opere di Bacone in Italia, si comincia a vedere, ad esempio, i Lincei anche nella loro valenza internazionale legata a motivi rosacrociani. Ecco, in sostanza, sarebbe veramente interessante utilizzare questo filo rosso, questa sovrastruttura che la Chiesa, attraverso due stili: l'atteggiamento rispetto alle realtà locali, atteggiamento che può essere stranamente repressivo e in taluni casi invece innovativo, perché io non sono affatto convinto che tutto sia perdizione e morte ogni qualvolta esistono degli ordini religiosi, quali sono profondamente galileiani e trasmettono in maniera clandestina, sotterranea, tutta una serie, conservano la memoria storica di Galileo, sostanzialmente. Evidente che questi non sono, in qualche modo, sono minoranze, però certamente la memoria storica di tutto un atteggiamento scientifico passa anche attraverso questi ordini religiosi, che poi tra l'altro si colorano in termini di conflittualità, che molte volte questi lo fanno perché è la loro connotazione ideologica propria nei confronti di altri ordini che invece sono molto più chiusi, molto più ostili. Quindi è un discorso problematico che passa attraverso Che poi quella sia una strada in qualche modo utile, io non lascio tutti poi pensarci loro, però devo dire, questa esigenza di connettere in qualche modo questa immagine complessiva del Seicento e individuare questi elementi, secondo me, è fondamentale. Dopo mi riservo per domani di intervenire in dettaglio. Messo in movimento dai turni nel pieno cartesiano. Beh, io dirò poche cose, che dalle relazioni tra Fine e Gallucci, centrata la prima sul Mezzogiorno, diciamo la seconda sul caso Toscano, io credo che sono fatti due scali di grande rilievo, di grande interesse, e però siamo tutti convinti che forse qualche altra area seicentesca italiana, padovana, veneta, bolognese e Roma, cui si riferiva anche Ferrone questo intervento, sarebbero necessarie per avere quantomeno un quadro, un mosaico un po' più compiuto, diciamo, del seicento scientifico. E potrebbe anche stamane forse qualche arricchimento in questa direzione si potrà avere, sarebbe utilissimo. Complessivamente, comunque, dalle relazioni di Torrini e di Galluzzi, pur su due casi così fortemente diversificati, indiscutibilmente usciva un'immagine di una linea insomma depressiva della vicenda scientifica del Seicento italiano. Ora, forse questo pure comporta qualche riflessione, nel senso di vedere che questa linea depressiva è probabilmente volutamente confermata, ma vedere di farne una lettura storica, per così dire, in positivo, no? Per vedere poi di possibilizzare questo discorso anche di un eventuale decenso da complessivamente giudicare come una fase di declino, vorrei dire, no? Dei processi della rivoluzione scientifica. Certo, dico subito che non sentirei di poter affermare che del grande capitolo della rivoluzione scientifica europea, che più o meno incide insomma in tutto il Seicento, il capitolo italiano della rivoluzione scientifica ne dovesse uscire diciamo quasi irreparabilmente, irrimediabilmente chiuso entro un'immagine diciamo grigia e così e di crisi. Probabilmente una rimessa in moto di conoscenza di altre aree e una rilettura complessiva poi dell'intero Seicento italiano per importare ritenere che attenuerebbe questa visione diciamo di linea depressiva. Dice Ferrone, e poi un'esigenza di indirizzo storiografico e numerologico complessivo, tentare ormai dopo tante ricche, anche se non esaurite analisi particolari, tentare qualche visione complessiva, qualche linea di movimento unificante. Trovarla nella Chiesa mi sembrava, dice Ferrone, come un'ipotesi possibile. Beh, io su questo, che mi riferisco proprio allo scavo di Galluzzi così sottile, soprattutto in alcuni tempi, di cui quello del canonico segmento, io qui sarei un pochino attento, perché è chiaro che dobbiamo vedere la condizione delle autorità ecclesiastiche, pur con la variante, poniamo degli scolopi per Galilei, insomma, ma dobbiamo vederla certamente come un'azione incessante, talvolta accaduta, abbastanza costante, vorrei dire, no? Di vigilanza repressiva. Ho sempre timore però che non si calcoli poi fino in fondo questo discorso, cioè assuma la istituzione ecclesiastica in modo un po' estrinseco. Che intendo dire? Intendo dire che dobbiamo misurare poi quanto effettivamente nelle coscienze degli scienziati questa cosa valeva, operava, era un dato oggettivo, voglio dire. Cioè, riguarderei da questo errore un pochino, un po' arcaico quasi, no? Che la scienza ha avuto dei blocchi per l'ostacolo estrinseco ed esterno della Chiesa, mentre poi dobbiamo misurare in concreto come nelle coscienze effettive degli scienziati, no? A quel punto avevano loro detto che i condizionamenti non è che avevano una scientificità voluta, erano costitutivi, vorrei dire, no? Dei limiti, dei orizzonti della propria intellettuale morale. Il caso di Viviani, per esempio, su cui ha tanto insistito Galluzzi, direi che forse da questo punto di vista è esemplare. Al di là di avere soltanto le cose in termini di timori, di angosce esterne, guardiamo anche per un momento se non sono ancora costitutive di questa coscienza di scienziati e di scienziati un insieme, insomma, no? Di circostanze, condizioni, che appartengono allo stato della loro formazione, insomma, no? Perché sarebbe grave pensare che ci siano sorgenti scientifiche che sono pronte ad esplodere, vorrei dire, no? E che poi questo non accada soltanto perché dall'esterno qualcosa comprime, e basta, invece sono crisi e problemi di condizionamento che stanno nelle coscienze medicine e scienze. Questo dico va molto, secondo me, dura. Aggiungerei ancora due o tre cose. Per quanto riguarda il caso meridionale, che lo ha illustrato così bene Torrini, proprio indicando alcune valenze di questa conclusione scientifica, che si suole chiamare appunto un po' di flessione scettica, di crisi del motivo di disorientata che c'è nel 600 a Napoli. Io appartengo a quelli che pensano che in quegli anni, in effetti, abbia avuto un peso molto forte il giardinismo a Napoli. Ecco, c'è forse molto questo discorso. Nel senso che ne vedo e la continuità e la presenza in funzione, se voi credete, anche talvolta anticartesiana e antigrigliana, e mi spiego in che senso, favorendo però questo processo verso l'erudizione storica, gli usi civili della storia, fino a certi sbocchi chiari. A me, proprio di recente, ho visto per esempio che questi saperi probabili, questi saperi verosimili, che soprattutto nell'Accademia di Divina Cina, più del 600, e poi subito dopo prevalgono a Napoli, siano un'ispirazione cartesiana. Vedevo proprio un parto dell'esercitazione per l'assembliare che proprio è esemplato sull'espressione degli antichissimi di Nico, no? Non sanno tutti i dogmatici, non è vero che tutti i dogmatici sanno tutto, non è vero che gli scettici non sanno nulla. Ed è proprio così, proprio, né scettico vostro omnia, né cioè dogmatico omnia, c'è una posizione in cui mi dico la fine, dici i dogmatici non sanno tutto, ed è sbagliato pensare che sappiano tutto, gli scettici non sanno niente, ed è sbagliato pensare che gli scettici non sappiano niente, c'è un sapere umano probabile, ventimile, in cui trova spazio a Napoli, secondo me, una forza di apertura dell'interesse storico, così come domando agli storici della scienza se nella loro peculiarità, nei loro studi, possono fortemente non tener conto, come spesso non vengono conseguire, dei grandi problemi deformati della coscienza e della conoscenza storica. Ma i problemi della fisica biblica, le grandi costruzioni istituzionali, voglio dire, dell'erudizione della storia, sono problemi che può sentire uno storico della scienza con tante stranità? Il costituirsi, diciamo, del sapere storico, con tutta la ricchezza filologica, con tutta la ricchezza critica, che certamente nel 600, voglio dire, nel secondo 600 è operosissimo, lo storico della scienza può pensare che questo è un processo. Certamente questo tutto positivo è documentabile come positivo, gli estranei, insomma, tutta la richiesta, ripeto ancora una volta, alla fisica biblica, tanto Spinoza, tanto Richard Simon, lo storico della scienza vuol dire per me queste sono cose che non mi interessano, non credo più fortemente comunitarie rispetto alla rivoluzione scientifica che voglia perdere poi quella connotazione, potrebbe dire, quasi tecnico strumentale del progresso scientifico, no? Che voglia guardare a un progresso critico enormemente incisivo, in cui mi pare che anche i saperi filologici, scientifico-filologici, vorrei dire, no? Il costituirsi del sapere storico, perché ci sono fatti importanti, decisivi, diciamo, per la cultura storica europea, dopo nel 600. E mi è dovuto farci dire Spinoza. Questo lo devo anche questo sottolineare in un quadro contemporaneo. Io dicevo prima, adesso facciamo il dopo pubblicamente, dicevo all'amico Ferrano di aver letto una sua felicissima recente sintesi sulla rivoluzione scientifica europea, vuol dire, no? Del decimo. Sono 35-40 pagine dense, lucide, che reperiscono quanto più possibile in una sintesi, non c'è una volta in nome di Spinoza. Ecco, per esempio, io chiedo, perché non è per caso che questo sia accaduto, credo che ponga dei problemi che si possa, parlando di un 600, no? Non ricordare. E questo secondo me significa più cose, che si collegano, cioè, delle incidenze di percorso, e che dico Spinoza ha una durata tardo seicentesca molto forte, è un dato, lo può sentire uno storico del pensiero scientifico come un ingombro, e come sto domandando Spinoza, la metafisica spinoziana è un ingombro a procedere della scienza, o a talune valenze e talune, diciamo, importanze che non possono essere trascurate, anche perché questo spinozismo, per quanto riguarda poi il Mezzogiorno, come sa benissimo Zoccherini, tante volte lo ha sottolineato anche a lui, vedi, nel Mezzogiorno c'è questo problema anche di inserire la nuova scienza, la rivoluzione scientifica, di inserirla nelle metafisiche rinascimentali, di investarla in qualche modo, per coniugarla con le metafisiche rinascimentali di Bruno, anche di Telesio, anche di Bruno in primo luogo. Beh, allora, secondo me il brunismo che c'è a Napoli nel tardo Seicento è il neospinozismo. È il neospinozismo che cerca di recuperare, voglio dire, gli elementi, diciamo, vitalistici, dinamici, ecco, della natura, rifiutando naturalmente non le soluzioni meccanico-quantitative. E anche questo qui però ho l'impressione che non è da guardare come un grande ostacolo al progresso della scienza. Ecco, l'innesto nel Mezzogiorno tra metafisiche rinascimentali, Bruno, che certamente diventano il neospinozismo in certi personaggi, che si pensi in primo luogo a Vico, beh, tutto questo è un filone che secondo me non va letto in negativo. Anche Garenne, in una bellissima relazione con il convegno, appunto curato dalla sua vita in Napoli, mi pare che abbia insistito, secondo me, positivamente. Quindi vorrei dire, nel Mezzogiorno, mi sto concludendo, mi pare che si veda un proseguire di una lezione castelliana, dei saperi probabili, dei simili, che si aprono favorevolmente verso la conoscenza storica. Vi è il problema di queste metafisiche rinascimentali, bruniane specie, che si coniugano con lo spinozismo. Vi è la richiesta, così esplicitamente ricorrente in Dico in altri, beh, di quello di domandarsi, insomma, i problemi della fondazione teorica della scienza. Cioè, non basta soltanto, no, un procedere meramente empirico, bisogna interrogarsi sui fondamenti teorici della scienza. Nel giovane Dico queste cose già appaiono con evidenza, insomma, quando lui critica, appunto, diciamo così, questo empirismo senza idee, in cui dice che la scienza è in primo luogo il problema per cui l'uomo deve conoscere e spiegare la sua mente prima di procedere all'indagine scientifica. Deve interrogarsi, no, sui poteri, i limiti e le capacità della mente umana di conoscere. Cioè, sono richieste in senso lato, vorrei dire, non soltanto neogeologiche, così, no, sono richieste epistemologiche. Non si può procedere nella scienza se non si interroga a fondo, diciamo, no, sui poteri della ragione umana. E questo, secondo me, anche indirettamente è un processo che deve tener conto, o non estromettere, vorrei dire, o non espropriare dalla vicenda della rivoluzione scientifica del Seicento, inoltre. Ecco, io avrei finito, se non fosse, se mi consentite, due minuti in cui io vorrei leggere una proposta del Poderio, ma 1770, la prima lettera che si scambiano Oldenburg e Spinoza, in cui, perché secondo me lo leggo, perché era una chiave per il discorso che avevo così avanzato. A un certo momento Oldenburg aveva chiesto a Spinoza come mai la sua versione per Bacone è anche un po' per Castello. E Spinoza risponde, mi domandate, di Oldenburg non direi che dica, cosa mi stava costruendo la società reale di Oldenburg, anche si comincia, no? E nello stesso tempo Spinoza è quello che risponderà analiticamente sull'opera del Boyle che Oldenburg gli invia. Cioè, stiamo parlando di uno Spinoza che lo possiamo chiudere quanto vogliamo, insomma, in una metafisica che possa apparire strana al processo scientifico, poi direttamente l'uomo molto attento, come si può documentare, diciamo, i processi legati alla scienza e domandamenti nel suo tempo. Dice, vi domandate poi quali siano gli errori, risponde Spinoza Oldenburg, mi domandate poi quali siano gli errori da me rilevanti nella filosofia di Cartesio e di Bacone. Anche il giovane è secondario in posto di Spinoza, benché non sia l'abitudine di scoprire di questi altri. Il primo dunque, il più grande, è quello di essersi troppo allontanati dalla conoscenza della prima causa e dell'origine di tutte le cose. Il secondo, quello di non aver conosciuto la natura vera della mente umana. Il terzo, di non avere mai individuato la vera causa dell'errore. Adesso, pur lasciando poi il spiegato, che anche è un grande acutezza, perché poi sorprende che a Cartesio o a Bacone si dica che non hanno mai ricercato la causa dell'errore, avendo dedicato non poco a parte, vorrei dire, sia con le regole dell'organizzazione ingegneri, sia con il discorso strumento, sia a favore con tutta la teoria dei ridoli, insomma. Eppure viene spiegato le pagine seguenti come non era quella lasciata per individuare le proprie elementi umani, ma sono tre punti che si potrebbero dire, chiamiamoli pure, per come si intendeva la parola metafisica nel 600, perché anche questo non deve generare equivoci. Nel 600 veramente metafisica era il primo luogo con ragione teorica di sapere, e non dobbiamo intenderla in termini erratici o devianti. Le esigenze che qui pone di notte rispetto a Bacone e Cartesio sono problemi, si potrebbero dire, epistemologici di conversione teorica della scienza. Cioè, questi sono i rilievi che io faccio rispetto a questi teori. Tra l'altro in quelle lettere di Spinoza c'è un straordinario e incomprensibile per me riferimento all'Euclide Restituto di Borelli, che lui ha letto con grande attenzione. E non è esplicabile? No, è esplicabile, ma è sorprendente, voglio dire. Qui avanza una serie di riflessioni. Aldini mi sa che tocca a te. Volevo sentire qualcun altro, ti dico, no? Devi riservare. Ma io volevo riprendere un attimo quello che proponeva lui sulla funzione di che può avere Roma come centro internazionale nel, anche nel secolo. Ecco, lui ha indicato tutti i colleghi del Gesù, tutti i canali che sono presenti sia a Roma sia proprio come sorta di sedi diplomatiche negli altri stati. A me sembra però che bisogna sentire la natura di questo tipo di circolazione di testi romani, nel senso che qui il tipo di circolazione non è di tipo normale, è una circolazione riservata in qualche modo, ossia ci si arriva se si è nella famiglia dei cardinali o nella si accetta la biblioteca privata, quindi è un tipo di circolazione molto particolare che va insieme con privilegio di dignità, d'onore e addirittura con certe posizioni politico internazionale, che riportano un po' quello che ho detto il professor Galuzzi sulla circolazione dei saggi del cimento, che non andavano ai letterati, tra virgolette, ma andavano direttamente a questi professori e patroni. Ora appunto nel 600 a me sembra che ancora sia pesantissima la posizione subalterna del letterato, tra virgolette, di quello che studia sui libri e non se ne esercita solamente come di un fattore di prestigio e d'onore, e che questo va in qualche maniera poi collegato, sempre cercando di tenere presente appunto il sistema istituzionale con gli altri tipi di esercizi che sono i colleghi professionali, nei quali pure il sistema è estremamente chiuso totalmente, ossia ci si riduce a delle dinastie professionali di fatto semi-ereditarie che hanno un sistema molto preciso di produzione di ingresso e di nascita, e che non vanno affatto ricerca, ma fanno pratica professionale privata. Ossia, in questo sistema la cosa caratteristica è la privatizzazione a tutti i livelli dei sistemi di professionali e anche di circolazione di idee. E quello che manca sono i meccanismi invece di raccordo tra un sistema e l'altro. Se non si tiene presente questo aspetto, si rischia secondo me di provocare largamente la presenza di testi e di libri in qualsiasi tipo di istituzione. Il collegio dei Gesuiti è noto che non facciamo dire niente, cioè, la divulgazione non c'era perché lo studio era interno, ma si comincia a scoprire adesso cosa studiavo, perché loro non avevano, insomma, per quello che ne so io, si guardavano bene da insegnare un grado dei loro colleghi. Ecco, un altro aspetto di questo tipo di problema è sempre che potrebbe essere questo: se la distinzione tra la tradizione classica universitaria e la tradizione pratico professionale di tipo di ascendenza arti meccaniche, se si prendono per esempio i colleghi degli ingegneri, questi erano completamente fuori della tradizione universitaria, ci arrivano alla FIAT nel secondo Settecento, e quando per esempio a Milano arriva l'Austria e prima dell'esistenza fa partire il sentimento, gli ingegneri milanesi, che pure erano una tradizione eccezionale nel loro genere, si fanno un'opposizione drastica all'applicazione della misurazione trigonometrica delle terre che viene portata da Marinoni, che è un matematico che sta all'estero. Loro fanno delle battaglie per dimostrare che nella pratica professionale lo studio delle matematiche complesse, quindi studiamoci del calcolo interimale, dell'ergonometria dell'algebra, non è necessario. Ecco, in questo sistema in cui il resto secondo me necessissimo anzitutto a livello sociale della distinzione tra tradizione alta e tradizione pratica, diciamo, ci sarebbero le accademie, se vogliamo, che possono fare da raccordo, ma anche le accademie sono un sistema privato per definizione, questo è un rilievo in positivo e negativo, secondo me. Cioè, nel momento in cui un'accademia si pone a fianco di un'università, ma si pone con onesta raccomandazione che le sue attività non siano nelle ore in cui c'è l'insegnamento universitario, questo non è per, come dire, un altro motivo che quello di mantenere l'università che è praticamente data, perché non è un'università che si impara, ma si impara nel segreto privato dei professori che sono dei frati. E quindi di fatto non c'è l'università. L'accademia come tale è la presidente della comunicazione e mantiene questo sistema di circolazione riservata. In questo senso, questo probabilmente può essere uno dei blocchi istituzionali che segnano per tutto il Seicento, come dire, in termini, naturalmente io sto facendo storia sociale della scienza, non storia delle idee scientifiche, ma può essere uno degli elementi che vanno tenuti presenti, proprio perché appunto altrimenti si comincia a vedere che a Roma realmente c'è, arrivano testi, ci sono, non so, la libreria dell'ospedale di Santo Spirito, con l'Antilli, è vero che fa venire Spinoza, sono lì, però chi è che va a Santo Spirito? I medici che partono dalla posta papale. Chiaramente questi avranno qualche difficoltà, perché in altro modo naturalmente i libri non si possono portare fuori e sono riservati soltanto a chi ha accesso, a chi ha, come dire, della famiglia papale, perché l'ospedale curiale non è cittadino e così via. Altre accademie però, per esempio, del secondo Seicento, a me, io ho avuto l'impressione che siano nettamente di contrapposizione di medici che non hanno i requisiti per l'ingresso nei collegi professionali, che sono giovani, che non hanno i gradi regolari, che non hanno la cittadinanza, che sono forensi, per esempio, e che fanno proprio l'anticollegio professionale. E qui proprio si vede l'incrocio tra l'aspetto di rinnovamento della cultura, cioè l'esigenza di chiamare a leggere libri nuovi, a rinnovare la pratica, a riportare in auge lo studio scientifico piuttosto che la pratica nei contesti privati, che viene coniugato insieme con l'attacco ai requisiti di nascita nei collegi, cosa che nel secondo disegno di legge dagli anni 80-90 del 600 diventa un po' generalizzato, perché sta cambiando, insomma, perché se ne stanno tutti che se ne sta andando da Spagna, che l'Austria che si sta aprendo una guerra di successione e che quindi si aprono degli spazi nuovi. Non so se questo è pertinente, diciamo, alla stessa storia dei fattori interni dello sviluppo scientifico, però appunto per esempio anche io mi chiedevo se per esempio il gruppo dei medici della Napoletana della metà del Seicento non si potrebbe anche studiare da questo punto di vista per spiegare la violenza del loro attacco professionale perché appunto il professor Torini ha dato tornato proprio l'aspetto di polemica professionale e d'altra parte di un poco nell'utilizzazione pratica e più che nella ricerca pura. Vorrei fare un riferimento su questo intervento, cioè io credo che la bambina abbia posto un problema molto importante, solo che la questione secondo me può essere portata ancora avanti, lei l'avrebbe fatto senz'altro se avesse avuto più tempo, no? Credo che questa impostazione sua consente di sbarazzarsi subito fin dall'inizio della persistente impiego che noi sempre, sempre ricordiamo in questi discorsi su questo periodo, della dicotomia tra privato e pubblico. cioè credo che proprio l'apertura a questi circoli chiusi, ristretti e chiusi, che però possono essere delle volte anche tra loro dipendenti, no? O anche addirittura qualche volta concentrici, incontro ecco, a queste unità di cultura della cultura, sia consente proprio di superare la contribuzione della Prima Repubblica. Qui si tratta di accertare e anche di accettare una volta per tutte la conformazione corporativa, o forse ancora meglio consultativa, che la società di antico regime ha anche in questa fase seicentesca, che senz'altro è la fase in cui si avvia il processo di unificazione più o meno razionalizzata dell'organizzazione del potere e quindi anche della convivenza sociale. Se si ritorna, come si faceva un secolo fa, a considerare i corpi e le consociazioni come soggetti sociali e politici e quindi anche il sapere, attivi e responsabili, allora forse si può anche smettere di interpretare gli andamenti delle diverse cose che ci interessano a partire sempre solo dal fatto se fossero loro private o se fossero pubbliche. Da questo punto di vista si può fare un passaggio anche che conduce all'intervento di Galuzzi di ieri e quindi diciamo così a questo principe così spesso evocato e così spesso a cui poi spesso in maniera così volgare venivano poi attribuite presunti intenti di ragionalità, eccetera, no? È molto bello che avete riferito i suoi fatti, poi mi ha interessato moltissimo, però anche emerge che cosa? Quando emerge un principe, il principe toscano, che non si può definire in questo caso l'interprete, il protagonista, il prete, il titolare della funzione pubblica. Perché così come questi corpi e queste consultazioni della famiglia, secondo me, non possono essere viste come il polo del primato, il tuo principe non può essere visto come il polo del pubblico. Cioè siamo in una situazione effettivamente in cui forse bisogna fare lo sforzo di affondare forse un po' dentro e quindi di individuare le forme concrete in cui poi questi contatti, questi rapporti, queste relazioni si svolgono, che sono forme diverse da quelle che noi abbiamo formalizzato oggi o anche dall'Ottocento in questo disinteressato pubblico che ecco, un po' confuso no, questo mio discorso, però teniamo presente che quest'epoca, io parlo naturalmente dal punto di vista della storia politica, come preferisco dire della storia costituzionale, quest'epoca è effettivamente dovuta un'epoca in cui questi due principi costitutivi della moderna realtà, di quella che poi si consoliderà a partire dall'Ottocento, i due principi costitutivi che si vanno tra di loro conteggiando, si intrecciano e portano avanti questo discorso, sono esattamente quelli un po' della concentrazione da una parte, no? Diciamo così, punto di riferimento teorico è il studio e dall'altra parte quella della sovranità che punto di riferimento teorico è potente. Questi due momenti qui, la sovranità e la concentrazione, sono grandi e i grandi sono vitalissimi in questa epoca. Seguirli forse è la strada giusta per riuscire a portare qualche contributo sul rapporto tra sviluppo del centro, del centro scientifico, della parte scientifica, che sono sinteticamente, e anche però sviluppo, diciamo, del potere. Quindi io ho un intervento di supporto, ecco, se è possibile, alla cosa da Brambilla per questo aspetto limitatissimo del vostro lavoro che riguarda rapporti centrali. Posso chiedere una... No, scusa, se ho ben capito, tu diresti, cioè avevi detto così, che è molto interessante, cioè l'intervento di Leopoldo, di Ferdinando, di Toscana sulla regimento della scienza non è, che è forte, abbiamo visto, preciso, puntuale, eccetera, non è qualcosa, diciamo così, che si possa paragonare, ad esempio, al tipo di intervento che c'è in Inghilterra sulla Royal Society, eccetera. Cioè, per questo è ancora un diciamo così, un modo di dire all'antica, diciamo. Cioè, il principe continua a questi, come posso... Un tipo dinastico. Sì, appunto, questo lo è di tipo privato. Sì, è privato, ecco, perché è roba sua. Però è roba sua, nel senso, come Stefano della Bella era l'incisore del principe, diceva fammi questo, e così Borelli... Oh no, ma è vero, cioè... Questo è uno degli elementi della complessità, ecco, non voglio rispondere a Perone, ma quando poi tu dici, beh, bisognerebbe prendere esempio da Wesley, beh, ma c'è una situazione completamente differente, voglio dire, perché qui abbiamo a che fare ancora con appunto. Cioè, comunque, quello dice Perone, che adesso in questa, secondo me, precisazione che è venuta è molto utile, cioè a non introdurre categorie contemporanee, questo sforzo di sintesi che dobbiamo fare, qui Perone ha ragione. D'altra parte io ho, e anche Maurizio, escluso di proporla la sintesi, cioè non essere sottoposto al massacro che ne sarebbe derivato molto facilmente, non sarebbe stato troppo ingenuo presentarsi con un disegnino, voglio dire così, questo filo rosso, aspettiamo un po', no, bisogna lavorare in quella direzione. Però bisogna lavorare in quella direzione. Però voglio dire, cioè, queste anche precisazioni fanno vedere la complessità non solo diciamo generale, arretratezza degli studi, disomogeneità, perché poi non siamo tutti, non tutte le situazioni sono allo stesso livello, chiusura degli studi, quindi la necessità dei collegamenti con gli altri aspetti del pensiero filosofico europeo secondamente sui problemi della nascita della critica storica e così altro. Fanno anche vedere però fondamentalmente che la situazione italiana rispetto per esempio a quella inglese è stata evocata in confronto diciamo con la letteratura storica di oggi, dico, è diversa per una quantità enorme di problemi. Cioè, per esempio, intanto, per quanto lo si possa cercare, anzi non è che qui non ci siamo dimenticati per esempio di studiare i radicali, il problema è che fin qui ipotesi, penso a una cosa per parlare in termini concreti, cioè Don Romeo De Maio ha lavorato in questi ultimi anni sul galileismo degli ordini a Napoli, ha fatto una cosa anche molto forte, no? Sul problema del mito solare, cioè cercando di collegare questa operazione all'interno della Chiesa, non in termini scontati, evidenti, di rilevamento del rapporto tra scolopi e galileiani che è trasparente, ma cercando di trovare all'interno del dibattito teologico un'utilizzazione del galileismo da parte di certi ordini. Ma se io tolgo questa, penso a personaggi, per esempio un altro personaggio su cui bisognerebbe lavorare in questa direzione è certamente Magalotti, uno dei pochi dei non napoletani, diciamo, che presenti a un certo punto una interconnessione internazionale. È uno che è andato a visitare Spinoza, tanto per riprendere il suggerimento di Aglini, che è stato in Inghilterra, ha conosciuto Boyle, si è occupato, ha scritto queste lettere, ancora indecifrate fondamentalmente, cosiddette contro l'ateismo, eccetera, dove effettivamente la complessità dei problemi, dove c'è la critica storica, c'è la critica biblica, c'è tutta la cultura europea, anche se non trattata sistematicamente, ma ci sono echi di tutto questo aspetto e il riferimento di fondo, sì, da una parte è il problema della coscienza e della fede, dall'altra è il problema della conoscenza e della scienza. Ora dico, però dico, questo radicalismo bisogna anche stare attenti a non metterlo dove non c'è, perché questo è uno dei rischi del copiare modelli di altre situazioni. Perché dico, in Inghilterra il rapporto tra scienza e fede, la scienza e religione, ha una dinamica totalmente diversa. Io ieri non ho voluto insistere sul fatto come causa determinante della repressione ecclesiastica, credo di essere stato chiaro. Ho detto che la repressione ecclesiastica è stata fondamentalmente abile nel senso di puntare non tanto a esercitarsi, ma a creare delle condizioni per cui scaturisse dalle coscienze, come, cioè non ci fosse bisogno di esercitarla, ma dove diventasse un caso di coscienza. In Inghilterra il rapporto è totalmente diverso. Lì il radicalismo passa attraverso l'impegno religioso, fondamentalmente, e l'impegno religioso si collega sempre all'impegno scientifico. Cioè, questa è una cosa, una situazione che, salvo il caso degli scolopi, salvo un po' la vicenda personale di Magalotti con la sua però non si sa bene se stimolata o vera in conversione, con tutti quei dubbi che vengono a qualsiasi lettore leggendo quei documenti, se lui abbia fatto il libertino, come alcuni sostengono, seppure a un certo punto esprimesse direttamente una situazione. Caso io personalmente non credo alla fotografia della sua coscienza, quelle lettere come fotografia della sua coscienza, però mi sembra anche abbastanza difficile. Ecco, salvo questo, in Italia, francamente, finora, salvo alcuni accenni sui Lincei, che sono a mio modo di vedere abbastanza tipici, cioè di un rapporto con la cultura tedesca e con tendenze che portano anche a sfumare verso i paracelsiani. Però io fin qui molti casi di questo, devo dire, non ne vedo. Ecco, e allora avrei, apertissimo a muovere verso sintesi più generali, dove la storia della scienza non è solo storia interna della disciplina, non è solo storia dei rapporti tra scienza e religione, cioè introducendo tutti questi elementi, però ecco, sempre in dati concreti, non partendo dai modelli astratti e applicandoli come molti nostri storici, e non solo nostri storici, fanno, quindi è un modello applicato, non so, le accademie, vero, forma utopica, eccetera, paf, guidano su questa, su quella, su quell'altra, e vanno a diritto e scrivono la storia delle accademie secondo questo concetto che non è tratto dalle specificità delle singole accademie, ma è tratto, ora io cito un esempio inesistente ovviamente per fare, io lo raccolgo e secondo me è giustissimo, in fondo tutti vorremmo riuscire a fare una cosa di questo tipo, ci sono abbastanza difficoltà. Il discorso sul pubblico e privato è anche un discorso che forse chiama in causa un tema su cui non si è toccato, ma che sicuramente sarebbe venuto fuori, quello dei giornali. Perché è quello tentativo di uscita verso l'esterno di un'informazione che non è più, vero, quella dotta che si scrive nei libri o quella ristretta che si discute nei circoli pubblico-privati, perché volta per volta bisognerebbe, come è stato invitato a fare. Ecco, i giornali anche qui, secondo me, offrono delle controprove abbastanza significative. Cioè, dove vengono fuori? Dove crescono? Quali sono i tempi? Faccio un esempio molto preciso. La Toscana non ha un giornale per età straordinariamente lunga, cioè è l'ultima delle regioni avanzate della cultura italiana a dotarsi di giornali, nella fattispecie, di giornali scientifici, letterari, filosofico-scientifici. Eppure, voglio dire, quando si fanno i giornali o le guide fuori d'Italia, si fa attraverso Maria Becchi, Leti, Segna, vero Nicola? Eppure si passa attraverso il Cinelli, che fa un certo tipo di giornale, che è un giornale del tutto atipico, una specie di segnalazione. Però dico, anche questo è un dato che in qualche modo dimostra una serie di meccanismi, vero? Una serie di meccanismi sui quali, vero, questo versante del pubblico barra privato induce un po' a riflettere. Perdone. Io volevo solo precisare una cosa, cioè l'apertura che avevo fatto io mirava sostanzialmente, io sono totalmente conscio del fatto che alcuni modelli non funzionano, personalmente me ne sono occupato per il 700 e ho visto che le cose funzionavano in tutta prova, dove lì aveva un segno negativo, qua aveva un segno positivo, quindi di quello sono totalmente consapevole. Laddove io invece ponevo il problema di un filo rosso, legavo il problema del filo rosso a problemi in qualche modo quasi metodologici, anche se in realtà non ha molto senso parlare di metodologia. Io dicevo sostanzialmente questo. Per me è molto importante che si acquisisca la consapevolezza che la nuova scienza, a partire dai primi anni del 600 in Italia, in qualche modo viene avvertita come problema ideologico. Cioè, ci sono notevolissime prove, poi non è tutto il caso Galileo, cioè, a partire da certi anni, la nuova scienza, discutere di nuova scienza in Italia è un problema culturale, di controllo, è un problema ideologico, è un problema di gestione, di che cosa ne facciamo di queste nuove scoperte, c'è un mondo nuovo, ci sono nuovi meccanismi che scatenano nuovi valori, è evidente che c'è da un lato, tutto quanto il paradigma scientifico che in qualche modo porta a innovazioni profonde, e di queste è fondamentale, necessario tenerne conto, cioè necessario tener conto, tanto per fare un esempio, del Boyle che si occupa di chimica e quindi giunge a risultati che in qualche modo influiscono, lo condizionano, e contemporaneamente del Boyle che si preoccupa di questi risultati. In Italia succedono le stesse medesime cose, cioè in sostanza il profilo dello scienziato seicentesco è ancora un profilo profondamente imbevuto di questa valenza ideologica, culturale in senso molto, molto lato, ecco. Per cui a partire dagli anni, dalla prima metà del Seicento, noi abbiamo quindi questa consapevolezza di questa gestione ideologica della scienza. Ripeto, gestione che non prescinde affatto da quelli che sono i paradigmi scientifici specifici, le scoperte scientifiche specifiche, perché quelle sono fondamentali, si parte da quello, si individua che cosa il presente ha scoperto e come lo interpreta, lo gestisce, lo distribuisce. Ecco, a un certo punto, quando questa consapevolezza è diventata evidente, secondo me il momento in cui è diventata evidente è il processo di Galileo, cioè è diventato un fatto ormai acclarato, pubblico, di là in poi studiare, connotare la scienza italiana del Seicento è un problema che in qualche modo non può prescindere da Roma. Quando io dicevo Roma, io sono totalmente conscio del carattere anfibio che la cultura che passa per Roma ha, cioè faccio un esempio specifico. Io sono rimasto impressionato, ad esempio, di come i cattolici nel Settecento, alcune aree, alcune frange, che stiamo sempre parlando di minoranze, hanno gestito con una grande sapienza il processo di ammodernamento della cultura italiana. L'hanno fatto in maniera spietata, nel senso che cosa hanno fatto? Hanno diffuso una serie di opere, hanno utilizzato tipografie clandestine con coperture più o meno ai vertici della gerarchia, hanno fatto delle riforme nelle università negli anni 30. Avvengono una serie di riforme nel Settecento italiano che sono strutturali, riforma a Torino, riforma a Napoli, riforma a Pisa, cioè e con progetti mirati, specifici, di ammodernamenti, di aggiornamento, perché poi la realtà drammatica è questa, la Chiesa deve continuamente aggiornarsi, se no è condannata, per cui è evidente che se si parla di Spinoza a Torino è un dramma, se se ne parla propaganda fide è a malapena normale. Dopodiché succedono delle cose strane, cioè c'è una forma evidentemente di dissociazione e sono delle bombe che poi esplodono. Tu facevi l'esempio dei giornali, è vero, basta soltanto pensare, tutte le accademie, il giornale dei letterati in qualche modo poi a Roma, a Bologna, cioè non sono affatto casuali queste cose qui. La cosa che colpisce, e poi in realtà questa ad esempio, le accademie dove fanno esperimenti, a Roma ce n'è. Allora ce ne fanno veramente esperimenti, ripetono esperimenti e cosa fanno? Riciclano ad esempio il grosso volume dell'Autry che riporta tutti gli esperimenti newtoniani della Royal Society e ci sono tutti i problemi dell'elettricismo, le tavole con le macchine scientifiche che vengono poi costruite a Torino, vengono costruite a Napoli, vengono. Ecco, questi gestiscono tutta questa operazione qua, secondo me con una consapevolezza ideologica del ruolo che la scienza ha, che non va sottovalutato già a partire dal 600. In questo modo, cosa voglio dire? Voglio dire che è evidente che la scienza seicentesca ha questa dimensione, che ripeto, non prescinde mai da quello che è il paradigma scientifico sotteso, perché c'è il Gassendiano, c'è poi il Locchiano, il Newtoniano, poi c'è quelli ancora che in precedenza elaborano tutta una serie di studi specifici sul vuoto, questo è un elemento da cui bisogna partire, dopodiché mai sottacere questo elemento ideologico. Per rispondere a quello che dicevi prima sul problema del pubblico, del privato, la cosa che mi ha stupito, ad esempio, è questa qui, realtà come quelle piemontese. Io sto studiando la realtà piemontese del tardo Settecento, l'Accademia delle Scienze di Torino, il problema delle reali scuole dell'artiglieria, le industrie minerarie, e lì c'è una cosa che è evidente, una sorta di trapasso da un atteggiamento rispetto alla scienza nel 600 e fino al 1721, quando si fa la riforma universitaria a Torino non c'è praticamente scienziati, cioè ci sono che cosa? C'è tutta una tradizione di masse di fortificazione, tra cui Rossetti, di Guarini, ma sempre all'interno dell'apparato statale. C'è una società civile depressa che non produce conflitti, non produce, e quindi non produce neanche scienza, non produce neanche dibattito scientifico. Tutto è sempre all'interno di particolari strutture. Nel secondo Settecento, quando il problema dell'esercito diventa drammatico, bisogna creare delle artiglierie potenti, l'esercito piemontese arriva a 800 cannoni negli anni 70, quindi ha bisogno di metterli in continuo riciclo, perché ogni anno ce ne vogliono 50-60, tra quelli che esplodono. Quindi bisogna elaborare prove meccaniche, bisogna elaborare tutto il problema del salmino, il problema delle foglie. Cosa succede? Succede che abbiamo una mutazione proprio del carattere della scienza che in pratica, mentre prima era puramente ideologico, nel secondo Settecento il problema si pone in termini di istituzionalizzazione. Napoli sparisce, dal punto di vista del rigoglio scientifico, il Piemonte, il povero Piemonte del secondo Settecento, proprio perché è mutato questa immagine della scienza, crea una chimica di notevole livello che poi confluirà in Avogadro. Abbiamo tutti questi artiglieri, da Menabrea a San Roberto, a Cavalli, cioè tutta la scienza ottocentesca si forma in queste scuole in qualche modo gestite dallo Stato. Ecco, quindi in questo senso io dicevo, il problema di trovare un filo rosso per la scienza del Seicento è anche, secondo me, un problema di andare a leggere la scienza seicentesca anche in termini ideologici, proprio di controllo, senza per questo tacere, ripeto, che esiste sempre il problema di, di un paradigma scientifico che condiziona fortemente anche la stessa ideologia. Certo. Lo vediamo nei principi newtoniani, tutte queste cose qui. Quindi questa stretta interconnessione è fondamentale, non è possibile, se no non, quindi non è un problema di modello inglese, quanto un modello storiografico, se così vogliamo dire. Non facevo modelli esempi specifici. Modello storiografico, ecco, di consapevolezza di questa valenza ideologica nel tardo Seicento. E si viene fuori anche dalle cose. Esatto, che cosa hanno detto. Certo. Ascoltando la discussione, penso che una delle indicazioni che è venuta, che mi sembra molto importante, è quella di fare interagire l'analisi delle idee, la storia delle idee, no? Dei scientifici, filosofici, eccetera, esperienze storiche, certo, esperienze di ricerca storica, di ricerca filologica, con i modi di diffusione, insomma, di perché, con gli strumenti. Perché si diceva prima, ad esempio, i gesuiti, no? La non accessibilità, diciamo, no? la non disponibilità al pubblico dell'insegnamento dei gesuiti. Ecco, allora pensavo che un'attenzione, oltre che ad esempio ai giornali, no? Potrebbe essere, cioè deve essere rivolta anche al tipo di scuole. È chiaro che le scuole dei gesuiti non sono certo le scuole di Nicolò. Allora, apprendendo che, ad esempio, c'è un interesse per il garibellismo, no? All'interno dell'ordine degli scolopi, mi veniva in mente che insomma, alla fine degli anni 20 c'è un forte rapporto tra Campanella e gli scolopi, no? Il Carasani, se Campanella scrive la parola pro scuola in spiriti, in cui appunto dipende, no? Dipende questo tipo di scuole che gli scolopi vogliono fare. E in fondo, ecco, questo parallelismo tra questo rapporto privilegiato scolopi, modello scolastico innovatore per certi aspetti, loro e Campanella, e poi più avanti, no, fortuna di scrivere verso gli scolopi, ripropone anche a livello di appunto modi di diffusione del sapere, un parallelismo tra nuova scienza e cultura meridionale, fortemente interessata alla metafisica, che nel caso di Campanella addirittura cerca di assimilare, no? Anche la nuova scienza galileiana, forse fermo di senso di Galileo, naturalmente, ha una prospettiva un po' metafisica propria. Quindi voglio dire, rivengono fuori in contesti diversi, no? Questi problemi che se no si pongono soltanto a livello di vista di idee. Quindi, certo, stare attenti alla diversità degli ordini religiosi, no? Che è una diversità che spesso si collega al modo in cui si confrontano con la società, al modo in cui organizzano le scuole, al pubblico sociale di queste scuole che svolgono. Ma per esempio gli scolopi Barnabiti appena arriva l'Austria vengono sistematicamente promossi in Lombardia. L'Austria che ad ogni maniera contrappone loro questo tipo di ordine. Una volta che non c'è il problema, trovo subito. Potrei? Dunque, io francamente lo dico subito, no? Non sono d'accordo con molte cose che sono state dette. Mi trovo perplesso perché siccome sono cose che riguardano livelli della realtà storica così differenziati, costruire una risposta e un'argomentazione che tocchi un po' tutte queste cose è praticamente impossibile. Quindi vado un po' a tentoni, diciamo, non con l'idea, diciamo, di dire una verità contrapposta a delle falsità, perché è solo di dare degli stimoli alla riflessione per vedere da che cosa possono nascere dei dubbi, delle considerazioni un po' differenziate. Dunque, anzitutto farei questo discorso qua, no? Io amo, credo che bisogna essere sempre un po' pedestri nelle cose, perché partire dai nudi fatti informativi forse è il sistema più antiquato ma meno erroneo che noi abbiamo, diciamo, per atteggiarci a delle ricostruzioni. Ora, quando si dice Ferrone che serve il filo rosso su Chino, io non dimenticherei che di fili rossi noi ne abbiamo avuti agli occhi nella storiografia sulla scienza italiana dal 700 ad oggi, e che fili rossi continuano a sussistere camuffati come fatti quando sono fili, cioè quando sono ricostruzioni concettuali capellate da realtà storiche provate. Noi adesso non scendo in semplificazioni, ma se ne mettete semplificati ci vorrebbe resto dalla mattinata solo per semplificare. Cioè noi abbiamo a tutt'oggi residui sfilacciati di questi tipi che circolano nella informazione generale o specialistica camuffati come fatti. Quando tu dici ci vuole il filo nuovo perché quelli vecchi sono consunti, io dico che per fare il filo bisogna sapere i fatti che questo filo connette. E osservo che non è affatto vero che noi sappiamo fare. Questo è totalmente fuori luogo. Noi non sappiamo, ti elenco un esempio brevissimamente. Non è che noi possiamo dire sappiamo sulla Toscana, sappiamo su Napoli, sappiamo su Parma. Noi non sappiamo niente di cose fondamentalissime. Noi non sappiamo niente sulla logica italiana del 600. Perché la storiografia sulla logica italiana salta da Zavarella a Sacchetti. Cioè a dire salta dal 1600 al 1700. Noi non sappiamo niente sulla storia della chimica italiana dal punto di vista analitico nel 600. Noi non sappiamo niente sulla meccanica fra Torricelli e il 700. Noi non sappiamo niente sull'astronomia di osservazione. Non sappiamo niente su moltissimi matematici fondamentali. E mi fermo, non perché non avevo altri esempi da fare. Ciò che noi non sappiamo è molto di più di ciò che sappiamo. Senza paragone comune, senza metro di misura comune. Ora, dire che il filo rosso serve è in un certo senso un truismo, è ovvio che serve, ma se noi diciamo che serve come modo per connettere a posteriori materiali, non osservo che questi materiali nella gran parte dei casi non ci sono allo stato elaborato. Se invece intendiamo dire che dobbiamo partire nell'analisi dei singoli fatti, cioè nell'indagine analitica già orientati da un filo rosso preesistente, allora manifesto il mio totale dissenso. Perché questo è esattamente ciò che ci ha portato a una storia ideologica del pensiero scientifico del 600, che tutt'oggi ci condiziona, secondo me. Il problema è questo. Se noi crediamo che vi sia un condizionamento ideologico nella elaborazione e nella ricezione del discorso scientifico nell'Italia dell'epoca, possiamo correre il rischio, e a me pare, io amo parlare chiaramente, che questo rischio si corra frequentissimamente nella letteratura corrente, che in sostanza proiettiamo in partenza questo tipo di ipotesi sulla lettura dei dati che andiamo a interpretare con risultati distorcenti. Noi per esempio qui, sentendo vari interventi che hanno manifestato l'opportunità di connettere il discorso tecnico sulla scienza a valenze generali della società e a aspetti generali dell'atteggiamento umano in quell'epoca, non ci siamo dimenticati che un aspetto essenzialissimo della scienza decentrica va esattamente nella direzione opposta. Cioè la scienza nasce come minimo comune denominatore tra posizioni ideologiche differenziate ed è sentita e difesa nel primo 600 esattamente in questa funzione. Cioè a dire, nel momento in cui il gesuita, il galileiano, l'epicureo, l'ingegnere o di insegnante nel collegio, accenno alle varie possibilità socio-ideologiche che sono state configurate, vanno a discutere sulla geometria analitica cartesiana, un pregio che tutti le riconoscono è quello di essere un argomento su cui si può raggiungere un risultato prescindendo dalle valenze ideologiche. Io qui non voglio dichiarare sempre un'interpretazione della scienza come qualcosa di ideologico. Dico che il fatto che essa venga sentita allora come qualcosa del genere è un aspetto importante della nascita della scienza. Se noi ce lo dimentichiamo, commettiamo una operazione che secondo me è questa scienza. La scienza viene avvallata anche in quest'ottica ed è un'ottica presentissima nei fondatori dei progetti del pensiero scientifico. E poi noi possiamo dire che in un Cartesio, in un Newton, in un Leibniz, in un Galileo a questo si associano anche delle valenze ideologiche, non elimina affatto il senso del problema per cui gli strumenti scientifici che si elaborano sono da loro preparati da altri scientifici come indipendenti rispetto a queste valenze. Cioè tali che possono essere discussi indipendentemente da essi. Perché se ci dimentichiamo questo, allora veniamo a confondere la differenza che c'è fra Galileo e Spinoza, che è una differenza fondamentale. Cioè veniamo ad omettere la considerazione che allorché Riccioli o Riccioli, gesuita, teologo delle distinzioni formali tra le genti, allorché parla delle osservazioni di Marte, produce dei dati matematici che sono accettabili o rifiutabili da chiunque non si interessi minimamente né ai genti, né ai gesuiti, né a Dio, né a Pico Pallino. Comunque, a parte questo, vorrei fare anche un altro tipo di discorso. Dire che vi sono degli aspetti sociali generali che abbiano influenzato a livello sia di elaborazione, di trasmissione e ricezione della conservazione. Attraverso il 600 sa benissimo che in ogni corso matematico minimamente qualificato la teoria copernicana veniva presentata in tutti quei Già, scusa Fardini, però il dialogo di Galileo non è più ristampato, qui non circola. Non è un problema. Come non è un problema? Galileo, prima cosa, il dialogo di Galileo ce lo hanno, non attribuiamo come cose vere cose che sono supposte. Il dialogo di Galileo è letto attraverso tutto il Cinevento ed è citato dagli stessi gesuiti. Io qui naturalmente non posso contare le No, no, ma io il documento, scusami, è un dato materiale di fatto questo. La ristampa, no, che nelle principali biblioteche, gesuitiche o non, il dialogo fosse indirettamente presente, che tutti i principali scienziati italiani del 600 lo abbiamo letto, questo è indiscutibile. Che poi noi vogliamo dire che se fosse circolato di più, questo sarebbe giovato al progresso scientifico, che è banale, questo è ovvio. Ma è un problema. Che la scienza italiana viene frenata dalla mancanza di circolazione di nozioni fondamentali. Può essere vero purché abbiamo una stima realistica di questa mancata circolazione. Copernico, dicevo, è insegnato in tutti i colleghi sistematicamente, certo non in modo analitico, viene rifiutato, ma dire che per loro esisteva un meccanismo per il quale, siccome i libri non uscivano dai collegi, allora la gente non sapeva che esisteva Copernico, questo non si può dire. Anzitutto, ovviamente, gli studenti gesuiti nei collegi sono, come sappiamo, migliaia attraverso il secolo. Questo è banale, va bene? E chiunque fosse studente nel collegio aveva accesso ai libri della biblioteca. Il fatto che non ti rivessero in prestito credo sia una circostanza non decisiva, anche in quest'ottica. Il problema non è questo, attenzione, è il problema di un diverso atteggiamento rispetto a quello che oggi noi riteniamo ottimale fra ciò che costituisce un dato scientifico e ciò che è avvertito nell'epoca essere come un dato ideologico o filosofico. Cioè a dire, in sostanza, credere che la scienza gesuitica dell'epoca, dico dei gesuiti ma potrei fare discorsi anche per altre comunità, chiamiamoli ideologico istituzionale, credere che questo tipo di comunità scientifica fosse, diciamo, preclusa al contenuto scientifico di Copernico per il semplice fatto che era ostile ideologicamente alla mobilità della Terra, è commettere un'operazione troppo disinvolta. In realtà costoro erano convinti di un fatto su basi scritturali fideissime, qui il professor Agrini ha ragione nel dire che non dobbiamo pensare al blocco come un qualcosa, come un tappo che viene messo dall'esterno. Il blocco non è un tappo esterno, è un tappo interno, è qualcosa di interiorizzato. Il blocco, il controllo esteriore è una sanzione di qualcosa che già opera dentro. Allora io dico questo, pensare che questa gente avesse una convinzione precedente per cui la sua attività scientifica non sia che l'elaborazione strumentale, puramente tattica, puramente posticcia, che serve semplicemente a giustificare una convinzione già esistente, ma questo è troppo semplificatorio. Questa gente in realtà opera a livello scientifico e produce, caso Riccioli o Riccioli, è ben evidente, Riccioli produce delle prove scientifiche che oggi noi non riteniamo valide, ma fa scienza per sostenere una posizione che noi riteniamo non scientifica, ma fa scienza. E la sua posizione è rifiutante con argomentazioni scientifiche. Non ci dimentichiamo questo. Nel momento in cui il fatto ideologico diventa un fatto numerico, il fatto numerico viene contrastato con considerazioni numeriche e colui che ha usato una considerazione numerica per sostenere la posizione ideologica, allora che su base numerica questa considerazione viene smentita, devi accettare la smentita numerica. E questo è il terreno scientifico. Se noi consigliamo così in modo iperbolico, diciamo, lungo una prospettiva puramente ideologica, tutto questo terreno concreto e complesso dell'operare scientifico ci scappa a fare male. Questa è la mia fondamentale perplessità, diciamo. Poi su molti altri aspetti di dettaglio che ricordo il sentito non parlo perché evidentemente ruberei troppo tempo insomma alla discussione, spero che della ravvivata c'è quella grandissima. Per quello che volevo fare una precisazione per quello che riguarda le scuole di servizi, per quello che ne so io, secondo me non si è ancora molto chiarito e capito come funzionavano a livello di rapporto tra gli scolastici della compagnia e le aule pubbliche. Non veniva insegnata la matematica di aule pubbliche, facevano migliaia di scolari, ma non quello che i corsi avanzati, diciamo, di matematica erano fatti per gli allievi della compagnia, cioè gli scolastici, che erano meno di ma insomma, ancora oggi nei licei classici, che sono gli eredi dei collegi dei gesuiti, di matematica fondamentalità se ne insegnava pochissima. Posso precisare una cosa? Francini, si laurea a 18 anni, ha studiato nel Collegio Romano, i corsi privati di geometria e di matematica si fa dopo. Un momento. Sì, privatamente. Posso perché lui non gli ha insegnato proprio nulla. Posso precisare? Allora, la matematica fa parte del corso filosofico della compagnia, come chiunque sa, e viene insegnata nel secondo anno del corso filosofico per ogni anno. Quello a cui tu alludi è il corso superiore avanzato che veniva impartito ai gesuiti che la compagnia voleva indirizzare alla docenza di matematica o che comunque volevano qualificarsi in termini scientifici. Quando io parlavo di lezioni manoscritte in cui Copernico figura costantemente insegnante, alludevo a manoscritti del secondo anno del corso di filosofia, cioè alle lezioni comuni tenute in aula. Ma io ne posso dire, ce ne ho citate, schedate migliaia a casa, potete citarne per almeno 50 in cui si parla di Copernico. Ma quanti, ma qui non si vuole parlare, eccetera. No, non certo ne parlavano, lo stampavano anche, voglio dire, nei corsi anche pubblici, si espone il... Ma non è, scusa, posso dire una cosa io, cioè, il problema mi sembra non sia questo, cioè qui nessuno ha mai detto che in Italia, nell'Italia del secondo 600 non si parla di Copernico o di Keplero o che non si parli di Galileo, eccetera. Cioè, il problema è quello che poneva, mi pare, a un certo punto Agrini, fosse molto differente. Cioè, voglio dire, tu dici il Galileo, il dialogo, io faccio un esempio, il dialogo, se potrebbe fare molti, ovviamente, è presente nelle massime biblioteche, certo, non è che sia stato bruciato, voglio dire, ma intanto, sai, beh, c'è un po' di differenza da considerare, noi facciamo l'esempio di Cartesio, tra la ristampa delle opere di Cartesio e il fatto che Galileo non abbia più ristampato fino al 700, beh, se tu consenti, già questo indica una differenziazione abbastanza notevole. Ma il problema non è tanto, a parte il fatto che chiunque volesse leggere Galileo, ne abbiamo moltissime prove, doveva chiedere, se voleva farlo in modo ufficiale, un permesso, tu sai, no? Vincenzo Capponi, che era il nostro personaggio, Fabiani, insomma. Gianni chiede la licenza. Chiede la licenza. E non l'ottiene. E non l'ottiene. Ti legge il diario. O Gassetti. Però mi pare una cosa fondamentale. È diverso, non puoi schiacciare questo fatto. Scusa, Basili, che anche sull'antifascismo c'era gli antifascisti, certo, è ovvio. Un altro discorso. Ma come non è scientifico, scusami? No, scusa, se ne c'è il dialogo, non avete il permesso di... Non è vero, ma per vero, perché qui allora do ragione a Ferrone, scusami pazienza, c'è una bella differenza tra una situazione nella quale si legge e si dice quello che si vuole, da una situazione in cui per leggere una cosa non si può poi dirla. Questa è la situazione, no? Una grossa differenza. Scusa. Ora io questo non voglio togliere lo spessore internista che tu sottolinei. Riccioli parla di Galileo come vuole, lo fa nella polemica con Borelli, prende, lo confuta. Scusa. Borelli non può confutare Riccioli, e lo fa, sì. Lo fa privatamente la cosa di e questi di Borelli non circola. Confutare l'argomento matematico che già, è bellissimo. E questo è importantissimo. Nel momento in cui l'argomento matematico decade la difesa dell'argomento ideologico che sta dietro quello matematico. Sì, ma di conciliatismo, mi sa che tu sai bene come andò a finire, è Borelli che deve cessare, non è Riccioli. Ma c'è una differenza fondamentale, scusami. Torricelli sappiamo che faceva osservazioni e teorizzazioni di carattere astronomico, però non pubblica nulla, anzi, detto di morte, no? Si raccomanda a Serenai, che è il suo esecutore testamentario, perché faccia scomparire i libri di Kircher su cui aveva fatto le relazioni, del Cabello su cui aveva fatto le note perché aveva paura, e tant'è che per esempio, cosa comporta questo? Ma insomma, siamo in un momento in cui, scusa, la circolazione delle idee è essenziale al progresso della scienza. Cioè, non siamo in un momento X della storia del pensiero, per cui dice, vabbè, uno è rimasto indietro, non ha visto, non ha potuto discutere di certi libri, riprenderà il tempo, insomma. Dico, noi ne abbiamo le prove, mi sembra che ci siano delle prove abbastanza concrete del fatto che in alcuni anni, che sono proprio questi a cui si fa riferimento, rimanere, e questo poi compare in tutte le lettere di Ricci, di tutti, rimanere tagliati fuori dalla possibilità di discutere, di avere libri alla svelta, significa tagliarsi fuori completamente. Tant'è che questo è quello, in grosso modo, se c'è un filo in qualche modo in questa storia, è quello che avviene poi di fatto per l'Italia. Tu non credi che il fatto, cioè non è tanto il fatto che non si possa leggere Galileo, il fatto che non si possa discutere di Galileo. Galluzzi ha insistito molto su quello che succede nelle date di Galileo. Si discute su che cosa? Sulla matematica, sulla geometria. Sul titolo e si sviluppano certi aspetti di carattere sperimentale, ma tutto il discorso cosmologico, tutto il discorso di metodo che fa Galileo eccetera vengono cassati. Perché tu mi dici è un fatto interno o un fatto esterno? Certo diventa un fatto anche interno, perché se a me mi dicano che per leggere un certo autore deve chiedere il permesso e in qualche modo devo segnalarmi come uno che ha delle curiosità perlomeno sospette, beh certo io magari mi metto a studiare cose magari, e questo è quello che avviene di fatto. Perché Riccioli certo le fa queste cose, certo, smentito dai fatti, quando si smentisce Riccioli cade tutto, ma fatto sta che per esempio sul vuoto, va bene, sul vuoto in Italia, chi la fa? La fa il sostenitore del pieno, quindi il sostenitore del vuoto curiosamente pare che in Italia non sia mai esistito, perché non entrano nei Torricelli, a un certo punto fa l'esperienza e poi se ne guarda bene, no? Le lettere a Ricci, dice ah io non, su questo problema non entro più, perché non entra più? Probabilmente anche per altri motivi, certo che la preoccupazione era fortissima, ecco, voglio dire. Quindi certo che le idee circolano, lo dico, però una cosa è che circolano in modo clandestino, sarebbe come, appunto, faceva Canuzzi l'esempio del fascismo, sarebbe come, discutere della mancanza di uno sviluppo, di una teorizzazione del marxismo in Italia tra il 20 e il 40 e dire che sì, Marx lo conoscevano, certo però non è che si discuteva all'università. Il fatto che a un certo punto ci sia questa cesura, che indubbiamente c'è nella scienza italiana rispetto ad altre situazioni, cioè rispetto alla Francia e all'Inghilterra, con ovviamente ci sono tanti altri problemi, però non c'è dubbio che si coglie tra i 30 e i 40 che c'è stata una rottura, insomma. La rottura deriva proprio dal fatto che questa sensazione di un'estraneità, di essere, di rimanere fuori, guarda, questa si potrebbe veramente fare un'antologia, insomma, perché tutti insistono su questo fatto, Ricci, Liliani, della mancanza di circolazione di idee, del fatto che c'è un controllo, insomma, su quello che si deve leggere. Potreste tutto dire, è vero che appunto il dialogo si leggeva, infatti ho fatto un caso del dialogo, certo si leggeva, però il fatto che questo libro non venga ristampato è molto significativo, è emblematico, insomma, la situazione. Scusa, porto due parole, poi non vorrei che diciamo, forse le mie parole possono stare interpretate al di là del fatto che intendevo affermare. Io non intendevo affermare che la censura, primo, non sia esistita operativamente, secondo, che non abbia prodotto niente. Io non ho detto questo, credo che gli ascoltatori abbiano capito questo. Io ho detto semplicemente che, primo, nei suoi effetti è stata marcatamente sovraestimata dal punto di vista della sua possibilità concreta di impedire alla gente di leggere. E questo è fuori dubbio, potete citare migliaia di casi di persone che hanno letto cose che non dovevano leggere. Secondo, che dal punto di vista di una considerazione, diciamo, della dinamica interna del progresso scientifico, il problema se uno leggeva perché gli era consentito leggere, o se leggeva senza che gli fosse consentito, non è così essenziale nella fase della elaborazione. È certamente fondamentale dal punto di vista dello sviluppo globale di una società, questo io non è, credo che non lo devo negare, credo che sia evidente. Però attenzione a non proiettare spiegazioni di questo genere, nel dire, per esempio, la meccanica italiana non progredisce dopo 200, perché c'è questo? Perché se andiamo a una imputazione di carattere così preciso, allora è, secondo me, c'è una difficoltà tecnica insormontabile, perché bisognerebbe spiegare perché i matematici italiani, conoscendo tutto ciò che conosceva Newton, non fanno l'analisi. C'è poco da fare. No, questo è perfettamente ovvio. Ma questo è il dubbio fondamentale, che quando facciamo un discorso scientifico però non è informale. Beh, questo però... Molto rapidamente, io credo che con questa precisazione forse adesso le cose sono più anche impostate in un modo più, per me, convincente. Cioè, io stesso ho cercato di mettere dei limiti a questa esigenza portata avanti da Ferrone, giustamente, di una ricostruzione globale che sia, perché non esiste ricostruzione globale che non sia ripetizione dell'evento storico senza dei criteri di ordinamento, che per quanto siano scrupolosi, fondati sui fatti, sono sempre un filo rosso, riprendo quell'espressione che evoca probabilmente, questo è anche stato l'equivoco, situazioni troppo fortemente sintetiche. Però è chiaro che c'è la filologia e che la filologia è una sottilissima ideologia. Questo intendo esprimermi, cioè è sempre la cucitura, una delle cuciture possibili di un numero il più ampio possibile, più seriamente letto, di dati. Ora, quindi in questo senso l'invito di Valdini, io lo sottoscrivo, ma quello che io sottoscrivo meno, francamente, è questa insistenza, ovvero l'invito a non considerare assolutamente soddisfacente lo stato degli studi, mi pare vada sottoscritto in pieno. Questo bisogna, sia molto chiaro, vediamoci, non solo non lo sappiamo, diciamo, per Milano, che sappiamo, Torino, Genova, Sicilia, nonostante gli sforzi recenti, lo sappiamo per Firenze, per Pisa, che sono poi, per guardare la tradizione, le uniche realtà che sono state tradizionalmente studiate, perché cosa si è studiato dal Settecento in poi? La scuola galileiana, tra virgolette, altro concetto molto ambiguo, vero, come si diceva ieri. Però, no, questo lo raccolgo in pieno, ecco, però al momento in cui si avranno questi dati, che vanno costruiti senza probabilmente per il momento impegnare troppe energie nelle sintesi, che sarebbero poi motivi anche di blocco, come sono state le vecchie sintesi, motivi di blocco e di irrigidimento, e senza formalizzare, io ho cercato di dirlo, nello studio solo di quelli che la tradizione ci presenta come i galileiani, ma studiando anche quelli che sono i nemici, secondo la tradizione del galileismo, magari per scoprirvi, io so che Maldini lo sta facendo, appunto speravo e anche ci desse qualche indicazione, scoprendo che magari non è un esercito compatto, tetragono, deciso, monolitico, ma è una struttura professionale che si pone dei problemi e che magari modifica lentamente, non tutti insieme, le posizioni, così. Però alla fine di tutto questo processo bisognerà pure, come ricerca storica, arrivare a distinguere tra chi insegna Copernico in un collegio dicendo che una delle ipotesi è quella copernicana, che le osservazioni di Copernico, no, però dice guardate, queste cose non stanno così, questo è uno che ci ha dato un modo di salvare le apparenze, ma la struttura dell'universo è un'altra, e la possibilità invece di fondare una astronomia d'osservazione raffinata su una cosmologia che fa senso. Questo a me pare una distinzione fondamentale, non tanto perché impedisca la prima, la circolazione delle idee, la riduce forse, ma non la impedisce, ma perché scoraggia le vocazioni, perché spinge a occuparsi di altre cose, perché indirizza obiettivamente attraverso mediazioni, non attraverso forze dirette, ma attraverso, il caso toscano secondo me è un caso di questo tipo, cioè io cercavo di far vedere non l'effetto della censura, ma i meccanismi straordinariamente mediati che partono non dall'alto, ma dal basso, cioè dalle coscienze, che producono effetti probabilmente neppure voluti dal meccanismo censorio, ma però egualmente efficaci. Questa io la mantengo, questa grossa differenza, cioè pur accettando che bisogna studiarli questi contributi scientifici, che ci sono ambiti di ricerche che rimangono totalmente estranei alle ideologizzazioni o ai meccanismi di censura, raccogliendo il fatto che bisogna studiarla la storia della meccanica italiana del 600 e che non si possono accampare come sono state accampate giustificazioni censorie per spiegare il tutto, per spiegare che l'Italia a quel punto per colpa, come per una vecchia tradizione italiana, non solo italiana, sostiene. Però ecco, nonostante questo, la distinzione tra un sistema di circolazione libera e non, diciamo, condizionata delle idee, un sistema di circolazione delle idee, però con limiti evidenti, io avverto una grande differenza. Io introdurrei anche un altro elemento, oltre a questa, cioè introdurrei, a non inviterei, cosa altra tradizione, è vero, molto pesante, probabilmente sbagliata, qui ci sono dei protagonisti, delle novità, a non guardare solo l'ambito di Copernico e delle scienze fisico-matematiche. Cioè, in questi anni vengono fuori, vero, le discussioni che riguardano ambiti di natura uralistica, cioè Morello, la storia della Terra, i problemi delle grottopetre, e anche qui succede esattamente la stessa cosa. La stessa cosa identica, leggevo recentemente, spero che ci dirà qualcosa, un carteggio del Settecento, del primo Settecento, molto bello, che sta per uscire tra Jacopo Riccardi e Valentino, e lì continua la preoccupazione, costituzione della Terra, storia della Terra, problemi biologici, il problema del riferimento a questa serie di condizioni tradizionali. Noi, anche eredi di questa tradizione storiografica deteriore che veramente ha costituito e probabilmente ancora costituisce un grosso blocco per gli studi sul 600 italiano, seguiamo a guardare privilegiatamente al problema della matematica, al problema dell'astronomia, e invece adesso sono straordinarie le evidenze che dimostrano come il sistema delle, come dire, resistenze, a partire sempre dalle coscienze, perché su quel piano esisti che proibivano, non ce ne sono stati, quindi lì c'è addirittura, però che suggerivano una riconversione, vero, verso l'esterno delle proprie opinioni. Noi vediamo la differenza nel 600 perché diamo tanto peso ai carteggi, perché nei carteggi le cose si dicono come stanno, nelle opere a stampa non sempre si dicono come stanno, si dicono, si riconvertono, subiscono degli adattamenti. Ecco, quindi secondo me questo elemento è molto pesante. Io credo che bisogna stare molto attenti, questo Badini ha perfettamente ragione, nel non utilizzarlo come è stato tradizionalmente utilizzato, cioè come una scappatoia universale, e nel non evitare di studiare i meccanismi di mediazione talvolta stravolgenti che portano una serie di volontà che in fondo erano solo quello del controllo della cultura, niente di più, era l'obiettivo di questa, della Chiesa, diciamo, e che non era lo stesso, vero, tra ordine, tra situazione e situazione, a produrre degli effetti deformanti, probabilmente neppure voluti, attraverso meccanismi che coinvolgono, come diceva Grini, il problema delle coscienze, non il tappo dall'esterno, ma il modo in cui questa situazione viene vissuta dagli interessati, provocando depressioni, scoraggiamenti o viceversa potenzialmente incoraggiamento. soltanto un piccolissimo affare, proprio soltanto a Ugo, come diceva prima, cioè ho paura di essere stato, nonostante io avessi precisato per ben tre volte il questo. Era rosso, eh? Era rosso, eh? Ha cercato di girarlo in tortina, ma. No, che magari discettibile, no? Sì, no, il problema è quello che dice, ho paura di essere stato frainteso in un punto, quando intervengo e chiudo, secondo me sono stato frainteso laddove in qualche modo si è fatto passare la mia ipotesi come una lettura puramente e unicamente ideologica della scienza, a tutt'altro. Io non, in qualche modo ho tentato di insistere sul fatto che io sono convinto che il prodotto scientifico, l'elaborazione scientifica di per se stesso, con la sua stessa natura interna, sia un dato da cui non si prescinde, si parte da lì, su questo non ci piove. Io, personalmente, mi sono trovato il caso della metà del Settecento, bene, finché si trattava di fare un'analisi specifica dei modelli matematici di Daniel Bernoulli, di D'Alembert, il problema dell'inoculazione del vaiolo, stabilire, la cosa era in qualche modo tutta interna ai modelli matematici ed era di notevolissimo interesse. Dopodiché il problema che mi sono posto è quello di dire, ma perché questi qui a un certo punto si mettono a fare questi modelli matematici per capire l'inoculazione del vaiolo, quanti morti produceva e cose di questo tipo? E lì devo dire, secondo me, facendo il discorso di andare a vedere il ruolo dello Stato, il ruolo delle statistiche in quegli anni lì, il problema delle matematiche sociali in Condorcet che diventa un problema politico di razionalizzare la stessa concezione del voto politico, mi sono accorto che questo arricchisce l'immagine. Cioè è una storia della scienza, secondo me, che parte dal modello specifico analista, ma in qualche modo subisce un arricchimento. Quindi in questo senso non vorrei che fosse confuso il dato di partenza. Il dato di partenza è il prodotto scientifico, dopodiché la sua fruizione è un problema che riguarda, secondo me, anche sempre gli storici della scienza, perché se no veramente torniamo ai comparti, e questo in qualche modo, secondo me, è uno dei motivi per cui non si riesce poi, c'è questa tendenza a evitare i processi di sintesi, che invece possono essere utili, perché le sintesi si fanno dopo 5-6 anni, si cambiano, cioè sono strumenti di lavoro in qualche modo, strumenti di lavoro che servono per far fracassare le ossa e poi andare avanti. Però senza quelli noi non andiamo avanti, secondo me, continuiamo a rinchiuderci molto. Quindi io ne faccio un po', sbagliare, ma intendo dire, è un problema, come dire, metodologico, ecco. Cioè, o noi cerchiamo questo tentativo di apertura, o diversamente la scienza del 600 in qualche modo si presenterà sempre più ostica da comprendere nelle sue grandi linee generali. E torna con il discorso se è stata l'autocensura, se è stata invece la Chiesa che ha bloccato determinati processi, se la meccanica italiana ha risentito meno della circolazione delle idee. Invece le cose devono essere decisamente connesse, cioè spiegate in un quadro molto più ricco e molto più unitario, che non deve mai prescindere dal dato oggettivo, la meccanica del 600. Ce la studiamo, dopodiché andiamo a vedere come è stata gestita. Cioè un quadro più ricco, ecco, non è un quadro unilaterale che preclude l'altro. Tutt'altro, questo è il punto precisare. Poi, ma non è il problema. E mi sembrava che non tu esisto, che si resistenza in un filo dell'esistenza. No, io non sono un secentista, lo sai benissimo, io non sono neanche l'apprendo, e poi c'è il problema. Io ho posto un problema, mi hanno detto, apri il discorso, ho posto un problema, esiste, che hai lanciato un laccio. E ho lanciato un laccio, poi si ruba. Ma che ti considerava che tu lo proponessi? Certo, io dicevo, secondo me, perché non proviamo a porci il problema di individuare un filo rosso in termini di discussione? Esiste, e mi sembra che grosso modo sia venuto fuori dalla discussione che può esistere o non può esistere. Io non ho proposto fili rossi, ecco, questo sia venuto. Mi era parso di sentire. Io non ho proposto, che non ho studiato in dettaglio queste cose. C'era un po' di filo rosso. Sto morendo poi in prova. Io volevo dire che ah, era Maccagni, non avevo individuato questo. Ah, è Maccagni, non proprio. Se volevo ritornare sulla cosa che mi diceva lui, il fatto che ci sono altre discipline, altri studi, altri campi di studio, per cui in effetti però la pressione che viene o dall'autocensura o che viene da una cultura lontana, comunque ridigerita dall'autocensura, diciamo che sia piuttosto evidente la parte di se non lo dice pubblicamente, lo scrive e lo pubblica, e lui intende ovviare quelli che sono i pericoli che vengono dall'università. E di una trattazione, come è Protomo, professore del Liceo Storico, di una trattazione che diventa ed è rimasta ancora oggi come la fonte di uno dei principi della fotografia, forse per le linee della vita che non hanno il fantasia di fare la legge romana, cioè quello della superposizione degli ordini, si chiude con una collazione, diciamo, per quelle che sono le verità della fede e le verità della natura, o perlomeno le leggi della natura, se non troppo le verità. Ecco, questo però l'anno prima, l'anno precedente, quando scrive nel 68, viene pubblicato nel 69, cioè quando Zenone è già convertito al cattolicesimo, parte per la sua vita apostolica e lascia Firenze. Nel 67, quando viene pubblicato l'elementorum neologia specifica, che è del sistema muscolare, che è parte muscolare in chiave borelliana, cioè in chiave fisica, lui introduce una parte dedicata allo studio della formazione e diciamo della formazione di tutto il pacco di sedimenti da cui lui crede sia costituita l'intera costa terrestre, e questo lo fa in appendice e in un trattatello dedicato all'anatomia della terra muscolare. Beh, non c'è nessun segno di concordanza con la Bibbia, anzi quello che viene fuori è quello che poi verrà recuperato da tutta la linea dei sedimentalisti italiani e diciamo dai primi decenni del Settecento in poi anche europei, ed è un'immagine talmente lontana dal diluvio o dalla diciamo dal soggiornare a lungo di un oceano che ha avvolto completamente le terre prima della fatica separazione delle terre dalle acque, in cui si sono depositati i primi sedimenti, cioè quelli che poi verranno chiamate rocce primarie. Di sedimentare non hanno niente, ma questa è una resistenza successiva. Ecco, se non lo dice chiaramente, che non vuole ovviare il pericolo di umanità, e io credo che sia di fatto che l'immediata conoscenza del testo steloniano a suscitare in Inghilterra quella che viene chiamata, quello che si può chiamare, un dibattito sulla cosmogonia, possiamo chiamarla così, e a suscitare poi quelle che sono le cosiddette teorie della terra, le formulazioni di Barnett, di Woodward e di personaggi come questo genere, che non prescindono comunque da fenomeno. Quindi non è neanche tanto corretto, secondo me, attribuire a fiorire di problematiche esclusivamente nazionali, come in effetti poi ci sono in ambiente inglese. La nascita di un desiderio, combinare scienza o conoscenza o verità naturale con verità di fede, di attribuirlo nel caso delle scienze della terra all'ambiente inglese, secondo me ha invece una radice italiana, cioè una radice proprio nella nostra sistema, che tra l'altro non è dimenticata mai. E si presta sia a ipotesi di dubbianista in questo modo, cioè secondo me se noi risolve un dilemma come quello di combinare queste due cose con una grande ambiguità. E così, è un'opinione mia, ma sono anche convinta che se noi consapevoli di questa ambiguità. Però questa ambiguità è funzionale, gli serve, cioè gli serve alla costruzione della sua opera, e gli serve dall'altra parte a poter abbandonare tranquillamente la ricerca scientifica, a dedicarsi all'attività di tipo apostolico, cioè a restare potenzialmente in pace con due ambienti che sono invece in un contrasto che si sta aprendo, in una spaccatura che anche nel campo delle scienze della terra si sta aprendo. Non solo, ma secondo me offre un'altra opportunità con questa sua combinazione non ben fatta tra natura e fede, cioè da una parte una polemica, l'apertura di una polemica che c'è, da una cosa piacevole anche per uno storico, perché è divertente, e offre un diciamo uno strumento concettuale per poter dare anche un senso a quello che è stato un tipo di interesse, di ricerca, proprio nell'ambito degli studi strettamente paleontologici. Ecco, se non che i popoli diventano indicatori la parola testimone poi è vietata, insomma i precedenti sono indicatori dell'unico fenomeno che ha effettivamente modificato e forse ricreato, come secondo me fa abbastanza bene ha capito Woodward nel 1901, la crosta terrestre, e cioè il fiume universale. Questa funzione questo diciamo valore in effetti attribuito poi al fossile come documento del diluvio fa sì che e diluvialisti e sedimentaristi che sembrano essere in molti casi gli uni contro gli altri e in altri casi invece si trovano davvero d'accordo fa sì che vadano dovunque alla ricerca di questo documento di questa testimonianza. Perché? I diluvialisti per dimostrare che il diluvio era stato stato universale, cioè che era stato il diluvio biblico, i sedimentaristi che tenevano più conto delle differenze che non delle analogie dei senti dei fossili, proprio per fare lo fosse, cioè per dimostrare che il diluvio poteva essere uno dei fenomeni comunque acquei che avevano modificato la costruzione della terra, che sicuramente era stato un episodio randomico, cioè un episodio comunque da interpretare non necessariamente come un fenomeno unico e da non interpretare necessariamente anche in questo caso un dietro di termini cui era descritto dalla Bibbia. Qui il discorso poi è molto complicato perché già l'altro tutte le questioni paleontologiche si connettono ai dibattiti ad esempio della biologia della seconda metà del 600, cioè di quegli studi zoologici che sono dedicati soprattutto ai possibili animali inferiori. Con la maggior parte dei fossili che si trovano sono fossili invertebrati e il problema degli invertebrati viventi, gli studi sugli invertebrati viventi sono studi così, molto sentiti, addirittura anche nell'ambito delle accademie, per quanto poi anche in seno all'accademia ci siano dei forti contrasti, ma qui è una cosa piuttosto lunga. Ma che? Io avrei tante buone ragioni per stare zitto, prima perché non ho sentito le relazioni, quindi posso parlarmi soltanto sulle discussioni. Secondo perché da troppo tempo non mi occupo più di Seicento. Comunque va detto lui che parola di casa. Io volevo fare delle considerazioni di carattere generale, premesso che colleghi pisani soprattutto mi chiamano Paolo Positivista, quindi questo forse potrà spiegare dove andremo a parlare. Normalmente dunque io volevo dire che abbiamo una serie di condizionamenti, su questo sono perfettamente d'accordo e vorrei sottolinearlo ancora, di tipo di tradizione storiografica. Noi in realtà si ha spesso l'impressione che continuiamo, forse inevitabile, perché siamo cresciuti su quel terreno, a sviluppare dei temi che poi ogni tanto ci accorgiamo che vanno contro una tradizione, se la tradizione forse non è corretta, ma lo vediamo, no? Una tradizione di tipo storiografico, cioè in realtà noi abbiamo alcune coordinate che sono già trattate, queste coordinate riguardano la storia della scienza, riguardano magari perché è più anziana la storia e io direi della cultura, per non dire esplicitamente la storia della filosofia. E cerchiamo inevitabilmente di far quadrare dentro questi disegni di carattere generale quello che andiamo facendo per storia della scienza. Lo so, fondandomi proprio sulla discussione, il tema Spinoza, che io ho trovato pochissimi studiati che parlano di Spinoza, quindi in un certo senso se noi riconduciamo il discorso scientifico che secondo me prima va fatto, prendiamo l'interno all'esterno se non finiamo più, certamente sui testi, al punto che io mi pongo un'altra domanda che era un po' affiorata in modo critico nel convegno di Santa Margherita, di cui tutti siamo almeno in quattro, se non vado errato, per averlo sentito, che anzitutto chiamava la scuola galileiana, forse con colpa mia che non mandai ad operare. È una cosa un pochino abusiva. Io mi pongo anche un'altra domanda, forse più cinica ancora, che cerca un po' di attaccarsi a quello che diceva Baldini. ma aveva proprio un gran senso per la scienza del Seicento la lettura del dialogo di Galileo? È una domanda grossa che probabilmente farà saltare molta gente sulla sedia, però io ho il coraggio di chiedermi che senso avesse, al di là del condizionamento psicologico della proibizione, leggere il dialogo di Galileo. La scienza che va avanti nel Seicento, al di là del simbolo dialogo, così come del Galileo scuola, quindi il simbolo Galileo, non si attacca per nulla al dialogo, anche tutte le altre vie. Diciamo che la via per la quale proderà, se vogliamo fare i nomi dei santoni, Newton, è una via che così siamo come nani sulle spalle di giganti, eccetera, eccetera. Al di là di questo, il discorso è discorso tecnico, voglio dire, perché poi il contenuto tecnico del dialogo è estremamente, estremamente ridotto. Talché quando nel 700 ci viene l'autorizzazione per stampare il dialogo, cambiamenti richiesti per l'autorizzazione della concessione riguardano per una decina di parole non più di tanto questo dialogo su tre punti, questo perpetuato. Quindi in realtà anche qui io credo che ci sia proprio questa pesantezza di schema storiografico che continua a condizionarci. L'altro condizionamento che io trovo di tipo storiografico è ancora quello di essere tributari di una tradizione che a un certo punto ha visto forse bene, questo sarebbe tutto da accettare, o perlomeno nelle sue grandi linee può funzionare, l'idea di una scienza che va fuori dall'Italia, per cui quest'Italia dà questa immagine di depressione, eccetera. Va bene. Più che di depressione, io direi che molto probabilmente la scienza italiana, una parte della scienza italiana, che io la distinzione torna molto opportuna, certo, non si mantiene in tutti gli italiani, però è evidente che lo stesso Galileo notava come i geni siano gente che lavora come le altre che sono rari, quindi siano i coglioni quelli che lavorano in gruppi come i passeraggi o altre cose del genere. Quindi direi forse una stagione fortunata in un certo campo finito, sta allo storico chiedersi perché. Io credo di poter dire che questa grossa differenza sta soprattutto nel non aver capito come cambiava il mondo matematico. Il resto della meccanica, il resto della fisica è un certo tipo di matematizzazione che in Italia non viene colto, non viene seguito, o soltanto viene colto agli inizi, nel rapporto di tipo epistolare e così via, e poi si va, si fila per la tangente, mentre qui si rimane, come dire, ancorati a una tradizione matematica di tipo classico, vedendo classico tra virgolette. Quindi anche per questo forse vale la pena di spostare l'attenzione altrove. Il discorso della Morella è stato un discorso molto efficace, vorrei aggiungere tutto il discorso medico. La medicina del Seicento italiano è senz'altro l'avanguardia in Europa, specialmente se riusciamo a separare questo discorso di tipo storico, che in gran parte è ancora da fare, da quei condizionamenti di tipo storiografico che si continua a dire dell'importanza di Cartesio per la biologia del Seicento, che invece io credo vada tremendamente ridimensionata. Semplicemente vedendo il confronto delle date storiche di Cartesio, dicevi? Sì. Che vada drasticamente ridimensionato, vorrei fare un solo esempio. La fisiologia, per quanto riguarda la fisiologia del cervello, basta vedere le tagliere del discorso sull'anatomia del cervello di Zenone e quelle delle opere di Willis di ricerca precisa e puntuale sull'anatomia del cervello, per vedere che Cartesio è già stato, come dire, surclassato in partenza, che in quel momento si presenta in una condizione di retroguardia, soltanto un condizionamento storiografico, avendosi costituita prima e avendo preminente la fotografia della storia della filosofia, ci continua a condizionarci e a anticipare. Queste quindi ne sono considerazioni di carattere riferite ai singoli episodi politici. L'altra questione che io vorrei fare è un po' che in tutti questi anni ho capito per rinunciare alle grandi storie e appassionarmi alle microstorie, anche nel caso della storia. È una scelta un po' curiosa, perché non c'è solo di solito la microstoria rischia di diventare la biografia. Non penso a questo, penso proprio all'individuazione di situazioni specifiche. Io non so se valga la pena di pensare a un panorama unitario della scienza italiana, o se esista una scienza italiana, che da due lati direttamente, un po' perché caratteristica proprio del discorso scientifico a partire da sempre, direi, è il fatto che i grandi temi ricorrenti sono sovranazionali, nel campo in cui fattori linguistici di cultura locale possono essere in parte sorpassati, che a volte mi fa mettere in dubbio circa l'ipotesi delle storie, della microstoria, eccetera. In secondo luogo, quindi direi che l'Italia in questo senso non... Ma l'Italia secondo me non ha senso ancora, proprio perché se da un lato la tematica è una tematica che si inserisce in quadri molto ampi, di idee, di libertà, questo conservare a lungo il latino come sistema di comunicazione sovranazionale e così via, dall'altro lato poi assume la trattazione di questi problemi di tipo generale delle connotazioni che sono altamente specifiche e particolari. Direi che se noi analizziamo un pochino le situazioni locali, vediamo che localmente prevalgono certi problemi, si affrontano con certi criteri, e per cui doppiamente quindi il discorso di una storiografia italiana nazionale, al di là della definizione geografica, che per allora valeva che lo voleva, è un discorso che mi lascia piuttosto divinissimo, insomma, ecco. Sono ancora d'accordo sulla ricerca invece del significato che ha la scienza presso le istituzioni. Io credo che i gesuiti siano ancora tutti da scoprire. Io avevo cominciato a occuparmi insieme a Costantini, poi ci fermammo tutti e due, anzi tutti e tre, e l'unico lavoro che uscì fu quello che mi pare fu il primo lavoro sulla Ratio Studiorum della Compagnia di Gesù, Cosentino, pubblicato prima di Cesare. Cosentino, sì. La stessa componente dipende dalla vita effettivamente da una serie di situazioni variegate. Pensiamo in origine a Bologna, pensiamo a Kircher, sono due personalità che sono in rapporto, stanno ad essere discusse se erano una tesi di epistolario Kircher Riccioli, e si vede che sono in rapporto, però gli interessi di ciascuno sono completamente separati. C'è questo uso tecnico del strumento sensibile che fa parte, che altre invece delle istituzioni che si variano più, forse nella provenienza di una tradizione culturale di interesse. Quindi in realtà mancano ancora, secondo me, mi sono d'accordo con Battini, le conoscenze di base, insomma, ecco, la stessa scuola galileiana rimane ancora un grosso interrogativo. Non esistono lavori complessivi, che so, tutto ricerca su Viviani, su Borelli, resta da fare tutta la storia della medicina. Resta da valutare che senso abbia, no? Proprio per tornare a quel problema se era depressa la scienza o se era finita la stagione fortunata, ed è più il fatto che se noi prendiamo prove pubblicate, soprattutto degli autori stranieri, questi qui vengono in Italia e sanno dove andare a parare, cercano dei rapporti, cercano lumi, trovano anche lumi, e per cui si dimostra che perlomeno a un livello di, chiamiamo un medio se vogliamo, un vertice, la scienza italiana gode ancora di una certa reputazione, prescindendo poi da una serie di considerazioni di tipo appunto di carattere ideologico. Mi sembrava opportuno sottolineare anche l'elemento che aveva portato Guardini quando diceva del fatto che nei conti le convinzioni personali incidono poco di fronte alla trattazione tecnica. Forse era una scienza ideologica, ma l'idea di una scienza che fosse autonoma rispetto alla fede, che quindi potesse essere praticata indipendentemente dalla fede, era addirittura una delle ipotesi attorno alle quali ha lavorato di più Galileo. Quindi direi anche in questo senso ci sono degli elementi che certamente oggi con la sensibilità di oggi, per cui il fatto c'è un sogno è una cosa che ci fa tutti inorridire, in quel momento direi che questo non è vero, se per caso noi spostiamo l'attenzione dalla censura galileana alla censura che ha colpito una serie di autori di carattere politico, eccetera, eccetera. dimostriamo che non abbiamo il coraggio di usare una censura di tipo politico, di tipo chiamiamolo più ampiamente ideologico, gli stessi effetti che vorremmo imparare una censura di tipo scientifico. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire soltanto che il materiale è ancora talmente fluido che non possono essere benvenuti queste occasioni di scambio, di idee, anche di punto di partenza e poi sono profondamente diversi. Però anche la cultura politica italiana del 600 doveva essere potente, giornalismo, cioè salvo Napoli, una situazione particolare, un senso di vasto neurale. C'era Prodi, ma forse... No, era aveva indicato Magagna, avevo frainteso io. No, io se c'è un po' di silenzio, allora dico qualcosa, e tanto comincio a smaltire qualcosa. Sento su questo, una precisazione su questo punto, che mi sembra sia quello di maggiore, come dire, incidenza. Certo, tutti i problemi sono diventati, anche con l'intervento di Maccagni, ancora più complicati e complessi. Una cosa vorrei dire riguardo all'esigenza, a questo problema di trattazione, di un tentativo di sintesi generale. Detto, e questo però sono banalità, ovviamente la situazione italiana è completamente diversa da quella francese, da quella inglese, e quindi questo comporta ovviamente anche un diverso modo di accedere a problemi di questo genere. Io credo anch'io che vi sia alcune esigenze, diciamo, di carattere interpretativo che su alcuni piani si possano anche fare di carattere generale. Probabilmente per la situazione italiana, per la, appunto, per i chiaroscuri, per la pericatezza che questa situazione comporta, noi dovremmo rinunciare a tentativi, per noi facendo nome di Webster, eccetera, unificanti di quel genere. Potremmo pensare forse tentativi di unificanti per settori o per aree geografiche. Ecco, questo forse per certi, per alcuni settori si potrebbe fare. Poi naturalmente è un fatto, diciamo, del tutto personale, voglio dire, il fatto che uno preferisca a un certo punto misurarsi su un lavoro di carattere interpretativo generale, oppure se invece dare luogo a indagini settoriali. Sul fatto, anch'io voglio dire, Baldini, mi ricordo anche di essermi attirato anche qualche critica, anche forte, a quel convegno, diciamo, ai pochi superstiti di Santa Margherita Ligure, quando credo di aver insistito sul fatto, ad esempio, che c'è anche dei condizionamenti, c'è un blocco, diciamo, per quello che riguarda in modo particolare la scienza, diciamo così, della scuola galileiana, sempre usando questi termini tra virgolette, che è interno, cioè che vuol dire che non dipende neppure dalla censura, vuol dire che giustamente adesso il problema della matematica. Beh, lì è chiaro, lì c'è un condizionamento di carattere teorico, cioè vuol dire l'ossessione, diciamo così, che ha Galileo, che poi trasmette a Torricelli, a Viviani, della geometria classica, della geometria di Archimede e di Euclide, è tale che questi non riescono, e questo si vede molto bene, a comprendere o a accettare, o perlomeno anche a pensare per discutere la geometria di Cartesio. Cioè, qui è proprio un condizionamento interno, qui non è che sia stato proibito di occuparsi della geometria di Cartesio, è proprio un fatto di blocco interno piuttosto che esterno. E questo è un fatto evidente. Quindi vanno, diciamo, in qualche modo fatti interagire i due problemi, insomma. Per quello che riguarda invece l'altro punto che ci ha visto un po' accesamente discutere, vuol dire, ora Bacchiani cinicamente si chiedeva che cosa il dialogo poteva portare agli scienziati della seconda metà del Seicento. Beh, è vero, cioè voglio dire, non è che dal dialogo, se fosse stato pubblicato nel 1660, si sarebbe imparato qualcosa. Però, Maccagni permettimi anche di dire che almeno in determinati momenti, specialmente come quello di cui stiamo trattando, non si va avanti soltanto nel campo della scienza, soltanto attraverso una serie di risultati tecnici precisi. Beh, ci sono anche problemi generali con gli inquadramenti, cioè il discorso che tu dici di Cartesio è vero, Cartesio è uno degli autori che nel giro, a parte la geometria, nel giro di pochi anni, dal punto di vista fisico e biologico, viene tagliato fuori. Però certo tipo, l'immagine che tu ha dato di quello che è i compiti e dello scienziato, del filosofo, eccetera, permane fino a tutto il Settecento, fino a Diderot, fino all'enciclopedia, cioè voglio dire, quindi il dialogo non è importante per i contenuti specifici che comporta, ma per una serie di problemi che avanza, anche con delle soluzioni che conosciamo sbagliate, che poi invecchiano immediatamente. Quindi il fatto di un blocco, diciamo, di una discussione, anche su un testo che magari non è più, che poi non è più attuale, però comporta evidentemente dei risultati. Per quello che quanto, ecco, questo tipo di censura, autocensura, sia stato importante, ma basterebbe pensare, me l'ha sfuggito prima dell'esempio, il caso per esempio della vita di Galileo Viviani, no? Eppure Viviani non riuscì mai nella sua lunga vita a pubblicare, riuscì postuma. Beh, la vita di Viviani è un, la vita di Galileo di Viviani è un documento secondo me impressionante, voglio dire, perché questo fa dei tutta aggiustata naturalmente con la consulenza di Michelangelo Ricci, eccetera, scrive delle falsità, cioè presenta ad esempio l'esilio a cui Galileo fu sottoposto a Siena come una misura di salute pubblica, cioè a Firenze c'era la peste e allora Galileo, il principe così premuroso nei confronti di Galileo, pensa bene che sia a Siena, eccetera. Cioè, voglio dire, ma è una cosa un po' impressionante, io voglio dire, questo stravolgimento proprio dei fatti, insomma, voglio dire, e non riuscì a farlo uscire nonostante questi tentativi di accomodamento. Quindi il problema, al di là, sono anch'io d'accordo, e Federico Baldini, fui uno, credo, dei primi a riconoscere che bisognava un pochino smetterla con spiegare tutto attraverso la censura, però, voglio dire, bisogna poi esagerare a questo punto, cioè questo problema esiste. Vorrei concludere questo intervento, mi sono trovato qui, era un brano che mi proponevo ieri, nella seconda parte, che poi non c'è stato del mio intervento, di leggere, ma che così vorrei sottoporvi. È un testo di Matteo Galdi, quindi di un giacobino, del 1809, che però è molto significativa a questo proposito, proprio sul problema di circolazione e progresso della cultura scientifica. Dice Galdi, si immagini lo stesso acutissimo Giovan Battista della Porta abbia fatto tutti gli sforzi del suo ingegno senza aver conosciuto gli scritti di Muschenbroek, di Lefebvre, di Lavoisier e di Volta, ne fa una lunga elenco. Per quanto grandi siano stati i suoi sforzi, per quanto assidue le ricerche, per quanto diligente lo spirito di osservazione, pure non avrebbe potuto che di gran lunga trovarsi indietro dello stadio percorso da questi valenti uomini. E ben sovente, distituito di macchine e dei necessari soccorsi dell'esattezza degli esperimenti, avrebbe rinvenuto a essersi spaziato inutilmente nei campi delle teorie immaginarie. No, cioè, a un certo punto ci sono dei momenti specifici in cui il rapporto, la conoscenza dei fatti scientifici, dei libri, eccetera, è tale che se non esiste, ci si trova, come dice giustamente Galdi, che aveva evidentemente presente la situazione italiana del Settecento, ci si trova indietro, spaziato nelle teorie immaginarie. Io spero che qualcuno nel frattempo si sia scaldato. Ecco, c'è la cavalla. Una Bologna che la voce di Bologna. La voce di Bologna è tanto chiedo. No, io volevo una cosa che riguarda un'assenza di quella che stava in discussione. L'assenza relativa a uno dei più rossi diciamo, in cui per altre situazioni o anche per altre esiste. Della scienza iniziale che è ovviamente accusato, e cioè il rapporto rapporto scienza-società, il rapporto del condizionamento, dell'influenza, delle trasformazioni di classi economiche, delle richieste diciamo, di consenso alla scienza da parte di strati, ad esempio, della struttura, delle classi dirigenti. Certo, il discorso in Italia è reso difficile dalla varietà di situazione, dalla diversità di situazione politico-sociale nei diversi stati. Io volevo semplicemente dire che probabilmente questo è a livello probabilmente di compito, a livello di non so, posso, mi ricordo comunque quello che imbastire ovviamente delle ipotesi sempre che deve essere sottoposto. La cosa che volevo osservare probabilmente è abbastanza sintomatico che le situazioni in cui abbastanza precocemente questa esigenza viene anche avvertita dagli scienziati siano ad esempio Bologna e l'ospedale di Venezia, probabilmente per Venezia si capisce meglio. D'altra parte poi il portavoce principale di questa situazione ideologica evidentemente è Montanari, che è lo stesso sia a Bologna che Venezia. È stata che sia abbastanza curioso o interessante il fatto che la insistenza sulla utilità sociale della scienza, sulla necessità si trova in Montanari, ma si trova in diversi altri monumenti, come i Bellini, come Santi Cassini, per scusarvi i Manfredi, eccetera, no? Martiglio ovviamente è naturalmente stato di questa tendenza, nasce in una situazione come Bologna in cui il contesto, comunque che la cultura è non soltanto il campo della Chiesa, ma è il principe, o perlomeno il principe un po' in una situazione un po' fantastica rispetto al Senato bolognese, e quindi questo credo si possa aprire anche delle, come dire, dei problemi abbastanza interessanti. Come ecco, perché poi un altro problema che mi sembra che abbiamo forse valutato, dando più spazio forse alle condizioni ideali di sviluppo della scienza, situazione delle idee, dei libri, eccetera, è il discorso proprio della istituzionale, della necessità. Io credo che nella scuola 600, che ancora nel 600 diventa sempre più importante, di strumenti laboratori, cioè di una strumentazione, di un apparato ricerca che non può essere individuale, non può passare del mondo per poter fare determinati tipi di ricerca. Quindi evidentemente allora il problema del finanziamento, il problema della creazione di strutture nuove, oppure della trasformazione in senso moderno delle università, evidentemente si pone, e tanto particolare che il primo caso di soluzione di questo problema venga da Bologna, e credo che un intervento abbastanza anche consapevole di Benedetto XVI che accoglie le istanze di Martini, che anche di quell'altro con Martini si era trasformato di vero un altro discorso. Vuol dire che tra l'altro in scienziati come Martini, come Montanari, come altri, in cui io credo che il condizionamento e l'accettazione a livello di coscienza dei limiti della situazione sia particolarmente profondo e forse anche particolarmente sincero in questo caso. Quindi importa, forse per uno di quei fenomeni che diceva prima Galuzzi, a trovare le soluzioni che vanno al di là o in una direzione diversa, poi probabilmente la questione si poneva, cioè a individuare dei settori di ricerca che possono essere legati alla medicina, che possono essere l'astronomia osservativa, possono essere in vari settori che sono sviluppati, che possono essere tranquillamente sviluppati, sui quali possono essere intrattenuti con i francesi dei rapporti senza troppi timori per controllo e censura. Sono toccati molti altri argomenti, e ce ne fosse uno anche di dire, diciamo così, metodologica. Cioè io un po' concordo con Ferrone, perché d'accordo che c'è bisogno di una raccolta di dati, di conoscenze che ancora io ho un punto elevato, ma anche di fronte a te ancora determinati campi. Ma io quando si è parlato di filo rosso, ho inteso un pochino, quantomeno l'ultima interpretazione di Sacrone, quella cioè di taluni modelli storiografici anche provvisori. Ecco, nel senso che io credo che i modelli storiografici provvisori, innanzitutto, vorrei dire, stimolano e indirizzano le ricerche, sono posti a verifica, poi probabilmente si possono anche ridurre, ma che per una certa fase della ricerca in qualche modo evitano il rischio della mera accumulazione di virgolizzativa. Insomma, ecco, io ho timore che tra queste due posizioni di rossi che cerchino e cuciano e nello stesso tempo rischi di dispersione di accumulazione empirica di dati, e forse probabilmente una via di ricerca intermedia debba individuarsi, forse attraverso modelli storiografici di approssimazione, sintesi funzionali intorno alle quali vedere concludere una fase di ricerca e vedere ripartire un'altra, cioè contrassegnare i momenti sintetici il processo di ricerca analitica. Questo equilibrio sembrerebbe indispensabile, se no c'è il rischio veramente dell'accumulazione, che poi, come tutti sanno, è un po' un processo all'infinito, non si finisce mai di esaurire, insomma, non il campo dei dati possibili, insomma, la ricomposizione è straordinaria, insomma, lo si contrassegna di qualche nucleo, sia pure provvisorio, credo, che c'è il rischio, insomma. E quindi mi pare che forse su questa linea mediana, diciamo, di modelli di storiografici provvisori, di sintesi funzionali, ce n'è esigenza, c'è sufficiente esigenza, non perché si veda lì la ricerca analitica, che pur tanto senza sottovalutare se le parte, insomma, no? C'è un altro punto, che poi forse con nettezza non è emerso. Mi pare che anche Vannini sostenesse che a un certo momento la scienza assume il carattere di quel terreno neutrale intorno al quale, nel quale si può convenire, non implicandovi tutti i problemi metafisico-geologico-cosmologici complessivamente religiosi. Cioè la scienza appare un luogo di discussione che viene utilizzato e viene anche guidato in modo tale che essa si tenga entro certi confini di della dimostrazione logica, diciamo, della verifica sperimentale, riesca a confinarsi però in modo tale da ben guardarsi, ecco, di essere attenta a non impigliarsi in tutte le implicazioni geologico-cosmologiche. Io credo che questo sia abbastanza vero in quanto processo verificatosi. Effettivamente la scienza è apparsa terreno neutrale nel quale si poteva convenire con forze, con le forze logiche della ragione e dell'esperienza senza implicare i problemi teologico-religiosi. Questa, secondo me, però, è un'operazione non casuale, non evidentemente, è un'operazione che io vedo via via, soprattutto le forze più avanzate della politica culturale della Chiesa, assumono consapevolmente come scelta. In un recente convegno, proprio riguardante il primo Settecento italiano, in quale mi sono trovato con altri amici, qui anche con Ferrone, beh, io ho sostenuto, vedendo anche il carteggio cardinale D'Alia Celestino Galiani, che c'è una posizione del cardinale D'Alia, il quale dice che Galiani, quindi ormai è venuto il momento che la Chiesa deve profittare, non che era ancora un'attenzione a fissare un momento in cui ormai le circostanze e gli avanzamenti, che sono scientifici, erano così evidenti che reclamavano, non consentivano di credibilità intorno al fatto che anche la Chiesa riuscisse a profittarne. E proprio nell'esperienza napoletana dell'Accademia delle Scienze di Celestino Galiani, da parte di Galiani, degli impieghi, da parte di, non si stancavi nel dire, ma guardate, noi non discutiamo di niente, potete guardare la teologia, la morale, la propria religiosa, noi proprio ci atteniamo a piccole indagini naturali, a piccole ricerche, state ben tranquilli, quelli ci possono avere. Tutto questo mi pare un modo per poter poi arrivare a concludere che in questo modo, voglio dire, alcune posizioni, diciamo, liberali, ecco, di parte di un clero più avanzato, rappresentano però soltanto una corta politica più avanzata di fasce, diciamo, della Chiesa, che a un certo momento si confrontano col progresso scientifico, tendono a limitarne ogni indicazione, vuol dire, religiosa, teologica, cosmologica, ci si attiene al terreno tecnico, per così dire, no? E cerca di limitare l'utilizzazione, approfittare delle scienze sperando che questo non implichi, no, successive conseguenze o successive proiezioni, insomma, o successivi rischi. E questo, tutto sommato, forse nella storia del pensiero scientifico, finisce con l'esterno una debolezza di fondo, una debolezza intrinseca. Io notavo in quel collegio, in un certo momento, dopo anche l'esperienza, vogliamo dire, di Celestino Gagliani a Napoli, dopo alcuni anni, Genovesi comincia a voler trattare di etica, di metafisica, di teologia, sbarramento drammatico e rischioso per lui. Quindi non si poteva insegnare, no, teologia, etica, non si potevano pubblicare, si trovavano enormi difficoltà a pubblicare opere per oggi, quasi un fattetto, ma che voleva nella cattedra in piedi parlare di commercio e di meccanica. Avesse parlato pure quanto voleva di commercio e di meccanica, di ma un grande sbarramento però. E secondo me questa però è una riflessione abbastanza allarmante. Allora la storia della scienza unitaria, mi riferivo alle varie direzioni e forme, diciamo, no? In cui vuol dire la censura, i contenimenti dell'autorità ecclesiastica, i limiti, vorrei dire, i problemi della fede, e a questo punto sono abbastanza grandi. Allora perché dobbiamo arrivare in Italia a ritenere che per tante parti i capitoli della storia del pensiero scientifico hanno avuto una loro irrazione, no? Hanno avuto un loro indebolimento interno, perché ove si accingevano ad essere scelte più radicali e profonde della visione del mondo, e di scelte, vorrei dire, etico-religiose più significative, beh, allora insomma la scelta debordava, usciva fuori. Se rimaneva entro certi suoi confini, essa poteva anche proseguire, poteva trovare dialogo e accoglienza, ripeto, no? Da parte delle autorità ecclesiastiche, ma debordando andava via. Questa situazione italiana, in ordine a un grande processo del pensiero scientifico, diventa però un momento di debolezza, perché vuole chiarire l'immagine, diciamo, di un pensiero scientifico un po' snervato, o con taluni limiti, vorrei dire, ben determinati, non in grado mai di farlo diventare, come vuol dire, corpo profondo, diciamo, no? In tessuto, vuol dire, penetrante, no? Di una coscienza complessiva del sapere, delle conoscenze, degli avanzamenti, ma con una sua quasi delimitazione tecnica e qualche sua ipotetica neutralità. E questa qua la considero un po' la debolezza, se tale la situazione. Scusate, Tadini prima diceva che ero molto curvo a star zitto, in effetti dovrei star zitto perché non so assolutamente nulla del 600, tranne quadro, non esagerare. Comunque diciamo questo, che anni fa, con Furbette Rossi e anche con Gianni Doppiata, si era proposta di una specie di tesi che era quella che in fondo la controriforma, forse paradossalmente, aveva proprio per il disciplinamento che aveva imposto in qualche modo agli scienziati, in fondo favorito lo sviluppo scientifico, perché sinceramente proprio quello che lei diceva adesso, mi fa dire, il fatto che uno scienziato si metta a parlare di metafisica e tutte queste altre cose che secondo che appunto loro dicevano, no, non parlare di queste cose, in quanto fai meccanica va tutto bene, ma quando poi fai questa cosa, forse proprio questo è il punto importante, perché questo io non vedo in che senso il parlare di morale, di metafisica, eccetera, o possa sviluppare ulteriormente la scienza. E di fatto la scienza sembrerebbe, ma certamente anch'io ho una visione, forse una filosofia del è un fare positivista, ma nessuno che lo il paleo. In questo caso proporrei l'abolizione del paleo. No, riprendeva dalla definizione meccanica, non paleo positivista. Sì, però è un primo punto. È un primo punto che però anche strettamente connesso a alcune osservazioni che sono state fatte in precedenza, e cioè sulla tesi di partenza che ci sia questo famoso declino, insomma, nella scienza italiana. Declino rispetto a cosa? Perché gli altri producono di più, cioè noi quando sosteniamo che c'è un declino, credo, lo facciamo facendo sostanzialmente un paragone con l'Ester. E però poi, appunto, punto di vista metodologico, allora diciamo che c'è un declino, che possiamo stare a fronte. Poi guardiamo a cause interne, e queste cause interne diciamo la cintura, che io sappia, la cintura arriva moltissimo tra le cose esterne, e queste noiosissime, continue professioni di fede che fanno i protestanti in tutti i loro interventi scientifici, sono il pandon dell'assenza di qualunque professione di fede che fanno gli scienziati italiani. Io posso farla dire questo nel secondo Settecento, mentre i protestanti nel secondo Settecento continuano a dire questo dimostra quest'altro, invece gli scienziati italiani, grazie a Dio, queste cose non le fanno, ma è uno di uni dicono aperti, gli altri invece si astengono, e uno può venire anche a assumere come modellini quelli di nostri politico sociali che si faceva riferimento, fascismo eccetera eccetera, però non è detto che appunto le dichiarazioni continue vede nel marxismo, nel fascismo, non necessariamente per coloro che in quelle sede facessero una effettiva questione totale, questo parlo per il mondo protestante. Scusate, ma come dico, il mio punto fondamentale comunque rimane quello di chiedersi veramente se l'idea di questo grande declino, che tuttavia tutti sembrano in fondo accettare, se sia effettivo per il secondo Settecento. Posso dire una cosa? Ma scusate, ripenso, a questo punto che mi sento un pochino toccato sempre. Beh, voglio dire, certo che rapporto metafisico, è un peccato che questa vostra tesi non sia andata avanti, perché sarebbe stato interessante, non lo so se sarebbe stato interessante, perché, no, voglio dire, perché voglio dire, certo uno si potrebbe pensare che appunto quello che si diceva, il fatto che ci fosse in Italia una situazione tale per cui si stringeva a certi studi è un vantaggio rispetto a questi ad altri che si disperdevano. Però ad esempio io reputo incomprensibile la geometria di Cartesio se uno non conosce la metafisica di Cartesio, cioè non si può capire la metafisica, infatti non a caso la geometria di Cartesio viene a un certo punto in Italia compresa e viene in certo qual modo discussa veramente, a parte episodi molto prematuri ma che dimostrano proprio il fatto che poi non veniva di fatto compresa, quando si comincia a capire che cosa era questo disegno complessivo di Cartesio, cioè voglio dire, ci sono non è che si può capire o si può escludere diciamo questi rapporti, voglio dire, il credere davvero, ecco, io almeno per quello riguarda l'esperienza italiana tra il 600 e il 700, ecco, non credo si possa tagliare, diciamo così, direi che è invece il caso opposto, ritagliare, diciamo, quello è la filosofia, quello è la scienza, quello è la morale, e pensare che non potendo occuparsi di morale gli scienziati, o non volendo occuparsi di metafisica, gli scienziati italiani erano avvantaggiati rispetto agli altri, perché questi complessi sono abbastanza unitari. Ad esempio, in Italia non si parla fino praticamente alla fine del Seicento, ai primi anni del Seicento, della discussione che Cartesio aveva fatto delle passioni dell'animo, né si discute mai in tutta l'Italia, in ambienti filosofici, di tutto il problema che era un problema classico dell'Europa della seconda del Seicento, che è quella delle passioni dell'animo. Non se ne discute per motivi evidenti. Beh, questo è un fatto, uno dice, beh, che c'entra con la scienza? Beh, non so se c'entra con la scienza, però c'è un fatto di una specie di perdita completamente di tutta una problematica che ha un grosso sviluppo. Ecco, quindi devo dire, a me mi pare che quando si parla anche di decadenza o di declino del pensiero, eccetera, va tutto presente un complesso di fattori. Ora, voglio dire, non è che si possa, anche uno scienziato come Boyle, uno scienziato come Newton, o come era Huygens, pensare davvero specialmente per il 600, ma direi anche per oggi, dico, di ritagliare quello che è risultato, è stato fatto per Newton, è stato tentato per Newton, ma si è visto che non legge, quello che è il risultato scientifico, il prodotto scientifico, e dire, beh, tutto quest'altro è filosofia, possiamo far finta che non ci sia, oppure era meglio che non ci fosse. Beh, insomma, è un'operazione abbastanza complessa, voglio dire, non sempre denta risultati, voglio dire, un cambiamento di prospettive, come si può fare, come è il caso di Newton, insomma, dico, o come era stato quello di Cartesio, non è comprensibile ritagliando dei pezzi, insomma, Cartesio va cercato di capire e funziona all'interno di una serie di esperimenti molto più generali. Per quello che riguarda poi il declino della scienza italiana, anch'io sono d'accordo che ci sono dei settori molto validi che rimangano in azione, che anzi proseguano, eccetera, però certo dire anche lì, se dovessimo fare un periodo di storia materiale, voglio dire, proprio di strumenti, di osservatori, eccetera, beh, non c'è dubbio che c'è una specie di sulle cause possiamo discutere ancora, cioè, credo ci sia ancora molto da discutere, però non c'è dubbio che c'è una curva, in qualche modo sarà, perché come diceva Macchiani, a un certo punto una volta nasce Galileo, una volta nasce Viviani, probabilmente c'è anche questo dato, diciamo così, di storia biologica abordata. Però è anche vero che c'è proprio una si assiste in qualche modo a un rinsecchimento di quelle che erano stato, che parevano all'inizio del 600, tutta una serie di possibilità. Quindi lì è giustissimo anche, e credo sia dal punto di vista storico molto stimolante, avanzare tesi azzardate o anche così che rovesciano di situazioni, perché poi possono far emergere elementi nuovi o che magari non si erano considerati. Però ecco, non credo davvero si possa separare, specialmente per quello che riguarda il 600, si possa separare quella che è la storia del pensiero, la storia, diciamo, quella che Macchiani un po' pudicamente non voleva dire, cioè la storia della filosofia dalla storia della scienza. Cioè non, in questo io non concordo con la Grecia, non so che sono fatti completamente separati. Ma dovrebbe chiudere, scusa, il presente della cultura all'estero. Sì, ma qui avviene. Ma certo, ma sono d'accordo con te, solo che qui c'è il problema, che mentre la studiare la scienza a un certo punto non è visto come già un dato, diciamo, di qualche sospetto, perché si può, caso di Bologna, appunto, caso di Newton, cioè, si può tentare l'operazione che viene tentata anche in Italia, Ciampo è la tenta, però per impresa è mandato sugli Appennini centrali, voglio dire che in fondo, appunto, la spiegazione scientifica del mondo non è altro che una maggiore gloria che si può dare al creatore di tutto questo mondo. Gli è tentato, gli vendetta, però che questa operazione non funziona. Perché gli vendetta non funziona? Perché questi rimangono, e qui torna il discorso iniziale che si è fatto stamani, cioè, perché qui il collegamento alla teologia è fatto con l'aristotelismo, insomma, e rimane sostanzialmente questo. L'unico accesso, diciamo così, il passaggio, diciamo, tra la filosofia e la teologia è dato dall'aristotelismo. E su questo, fino a un certo punto, fino a un bel pezzo in là, non si transige, insomma. Chiunque non è in quella linea è fuori, insomma. Ecco. Schiera? C'era Schiera. Io avrei due o tre domande di tipo molto ingenuo e che derivano appunto dal fatto che mi scuso se saranno cose domande che appariranno un po' attorno e invece non lo guardo minimamente. Sono tante, 3-4, insomma, non sono necessariamente collegate fra loro. La prima è questa, per dire, quindi è questa. Credete, voi che siete appunto esperti di storia della scienza, che sia possibile fare la storia della scienza allo stesso modo quando si parla dei grandi e quando si parla dei piccoli? Cioè, si possono usare gli stessi criteri di lettura dello sviluppo del pensiero scientifico quando si parla di Galileo, di Newton, o quando si parla di tanti piccoli omini, che io potrei anche dire adesso, che se vuole prendere stamattina? Io credo di no. La mia esperienza, perché riguarda il pensiero politico, è che mentre il grande pensiero politico normalmente si possono studiare, anzi forse è meglio studiare, abbastanza indipendentemente dal quadro di riferimento, diciamo così, politico-costituzionale, per i piccoli invece sempre più necessario, quando non è indispensabile, ricorrere invece ai nesti profondi. Allora, con la struttura materiale dello venditore del quartiere, non solo quello. Allora io dico, è chiaro che per capire il netto tra la geografia e la metafisica, è chiaro, ci credo, no? Credo, forse non lo so perché non lo so, credo fortemente a quelli che tu dici che per Cartesio in etica metafisica e geometria debba essere assolutamente certo. O voi dubbi invece che debba essere tanto certo per un poveretto che fa il suo mestiere rucolo, tranquillo, ma i poveretti sono centinaia. Questo qui è un primo discorso. A questa domanda se ne collega una seconda che è altrettanto banale, se vuoi. Certo, non si può fare storia del pensiero scientifico. Io adesso qui comincio già un po' a distinguere, perché mi pare che io ho le conclusioni in testa, da non esperto, rispetto a questo. C'è forse un po' di confusione tra la storia del pensiero scientifico e la storia della scienza. Insomma. Mi sembra che sia per dire, la scienza non è solo pensiero. Il pensiero mi pare, perché se la scienza è solo pensiero, allora mi interessa anche relativamente poco. Mi pare che ci sia sentato giusto dire che la storia del pensiero scientifico non si può fare senza il collegamento con la storia della filosofia, però allo stesso modo, sempre usando questo richiamo analogico con la storia del pensiero politico, devo dire che la storia del pensiero politico non si può fare, però neanche appunto separando dalla storia dell'amministrazione, dalla storia dell'istituzione, dalla storia costituzionale. Mi chiedo se per caso anche per la storia del pensiero scientifico non sia lo stesso. Cioè che se si guarda da una parte la filosofia, dall'altra bisogna anche guardare le concrete, specifiche occasioni, condizioni in cui il pensiero si svolge, riesce a produrre, eccetera. Oppure non si svolge, non riesce a produrre. La terza domanda. D'accordo che c'era censura, c'era una volta anche la faida dentro nei modi di, delle relazioni umane in un periodo come quello che si chiama normalmente medioevo, no? E a lungo si è continuato a pensare che la faida fosse una fatale. Così come lo è ancora adesso in Sicilia. Poi dopo è arrivato uno che ha spiegato, guardate che la faida in realtà non è una battaglia, ma è lo strumento più avanzato, più regolabile giuridicamente, che c'è in una certa epoca, in certe condizioni storiche, per risolvere delle controversie. Privati sta per dire, no, di uomini. Questo dopo è stato risolto, ma mi chiedo se per ipotesi non si possa anche pensare nei confronti della censura, che la censura non è necessariamente un fatto negativo, perché io dalla libertà e tutte le cose democratiche in cui noi crediamo dal 1989. Prima non ci credevano perché non lo sapevano. La censura è un elemento costitutivo del modo d'essere, di pensare, di agire degli uomini in tutte le condizioni che noi conosciamo in ambito occidentale fino al 1989, forse oltre. Quindi proviamo direttamente alla cosa che da questo punto di vista suggerirei di provare a ricostruire la costituzione, come la chiamiamo noi, di questi rapporti, cioè il modo d'essere, a prescindere da questi molto più lucidi occhiali che noi abbiamo, naturalmente, perché è chiaro che gli occhiali costituzionali sono più belli, sono più colorati, sono bianchi, rossi e blu, però anche prima la gente campava, viveva e per Dio produceva dei meravigliosi risultati, forse anche superiori a quelli che sono riconosciuti dopo senza censura, insomma, di tutti i campi. Quindi anche questo è un discorso. Poi dopo ce n'era anche un altro discorso che era legato a quello della censura, quindi era cosa di tentare. Cioè, ecco, quindi il discorso, ecco, è collegato a questo. Si riparli all'osservazione che avevo fatto all'inizio nel precedente intervento. Se noi proviamo a pensare, cioè se noi pensiamo al mondo scientifico, no? Come sottomondo del mondo generale, come tanti altri sottomondi, sapete, questo discorso per vedere anche tutti gli altri sottomondi del mondo generale, di antiquarelli, chiamiamolo così. Se noi pensiamo al mondo scientifico come a un appunto mondo unitario, no? Tutto egualitario, in cui appunto la circolazione si sviluppa in modo di massa, direi quasi, no? Come siamo portati a fare partendo dalla nostra condizione odierna, allora è chiaro che il discorso censura, il discorso non si guarda nei libri, il discorso chi vuole, il discorso gesuiti, eccetera, eccetera, sono tutti discorsi che ci appaiono come profondamente limitanti, castranti e tutte queste robe qui. Se invece noi proviamo a immaginare quel mondo lì, non come così egualitario, libero, eccetera, eccetera, ma neanche come autoritario, antidemocratico, fascista, clericale, massonico, cioè non lo so, ma invece come un mondo fatto, come cercavo di dire prima, di tanti piccoli ambiti che tra di loro sono più o meno snodati, più o meno Susanne e Hengel, non so dire in italiano, più o meno collegati fra di loro, dipendenti fra loro, con tutta una serie di aperture e di chiusure, come un sistema di canali in cui mettono si apre, mettono si chiude, non lo so che metafore si possono usare, ma quella è la realtà di governo, sì. Se noi pensiamo a quel mondo in questo modo, allora a me pare che hai tutte queste, questi discorsi relativi alla circolazione, no? Delle idee, dei libri, eccetera, eccetera, vanno rivisti in questo modo, cioè bisogna pensare, bisogna riuscire a trovare dei modi di circolazione che siano adeguati a questo sistema complicatissimo di canalizzazione, no? Perché se no non sappiamo più niente, non possiamo pensare a modi di circolazione di massa e cercare di applicare un mondo che fa tutto in questi angoletti, di labirinti, di gira sotto e sopra te. Concludendo, l'ultima cosa che volevo dire sempre in modo così, scusatemi, è stato veramente solo l'esempio. Questa ipotesi, che non era così neanche un'ipotesi, che appunto si erano le etichette che si facevano quando stavamo qui, c'era anche Renato, eccetera, no? Cioè, non è questione di fare delle tesi per trattare, è uno scherzo, questa cosa. Però io chiedo a voi che siete seri. La miniaturizzazione, cioè per comprendere gli elementi più caratteristici, più significativi, più specifici, più del appunto, pensiero scientifico della scienza moderna, che per esempio appunto quella che comincia circa dopo Galileo, no? Ritenete voi che la miniaturizzazione coatta oppure no, lasciamo, non interessa, dell'interesse scientifico, dell'applicazione dello studio, cioè il fatto di dover, di poter liberamente continuare a applicare la metodologia galileiana solo su piccoli campi e non poterlo fare nei grandi, quindi insistere su piccoli campi, concentrarsi. Vedete che questo possa essere anche inteso come un elemento, diciamo così, di modernizzazione. Ritenete che sia assurdo pensare che questo fenomeno così cattivo, perché prodotto dalla cattiveria dei preti, eccetera, eccetera, però possa aver prodotto come effetto secondario anche un momento di modernizzazione? La porrei in questi termini la domanda. Anche perché devo dire a conclusione che sono stato tanto colpito da una recentissima, che conoscete tutti, rassegna di Paolo Rossi su Intersezioni, no? In cui mi pare che sono tutti i discorsi del declino, delle generalizzazioni che c'è un giorno di castelgalle con la scienza moderna, eccetera, eccetera. Sono andato colpito, insomma, no? Questa recensione che vede un po' in dubbio di queste cose. Però se niente, posso fare, scusatemi molto per questa recensione. C'è da metterti le mani nei capelli, nel senso che in questo ultimo, quando stava per chiudersi questa discussione, con due sussulti sia ripartiti, ci vorrebbe una giornata a dare risposta a tutte queste cose. Io parto dall'ultima perché non vorrei sfuggire. Da una parte, secondo me, tu hai introdotto una serie di regole fondamentali in ogni attività storiografica, quella di non confondere dei valori, di andare a indagare delle situazioni dove i valori erano diversi con dei valori contemporanei, se posso raccogliere. Però vedi quanto sia difficile, tu hai parlato adesso di modernizzazione, e che criterio è questo? Cioè quando si va a vedere se si può valutare in termini di modernizzazione la individualità o lo specializzarsi di certe discipline, anche questo è un criterio contemporaneo, cioè non c'era questo criterio dall'interno di quelle categorie. Non in questi sensi, non così specifici. No, ma io volevo raccogliere questo a cui non so rispondere, solo per vedere quanto sia difficile sottrarsi al gioco, a quello che prima tu chiamavi nel tuo precedente intervento l'immersione, no? L'immersione, è questo. Grandi e piccoli, beh, certo qui si va in discussioni che non avrebbero fine. Io però penso che intanto di nuovo nella distinzione tra i grandi e i piccoli potremmo mettersi a discutere senza fine. Ci sono i medi tra i grandi e i piccoli, e non solo, ma poi i grandi e i piccoli secondo me sono categorie interagenti. Cioè i grandi non solo, certamente si possono caratterizzare quelli che hanno una minore vincolo dalle situazioni determinate, cioè sono più indipendenti, sono più legislatori, diciamo, sono più capaci di imporre. Ma i piccoli sono quelli meno capaci di imporsi, ma in che rapporto sanno i grandi rispetto ai piccoli, accetto la tua metafora, cioè i piccoli sono condizionati solo dall'ambiente o anche dai grandi? Caso che io conosco, scuola galileiana, direi che se il grande, per metafora prendiamo Galileo, certo sui piccoli, Galileo ha pesato, pesato in una maniera non diretta, scontata, con mille mediazioni anche arrovesciata. Storia, censura come meccanismo razionale, io sono perfettamente d'accordo, in fondo la domanda di Mazzolini poneva un problema, la censura esiste, è legata alla controriforma, ne creava una conseguenza rovesciata rispetto a quella che oggi da noi, da molti di noi è stata sottolineata. Non è stato un meccanismo negativo, doveva essere, potrebbe apparire logico che fosse stato un meccanismo positivo, dato che in fondo la modernizzazione spingeva verso la modernizzazione. Ora questo come schema dico, di questiologica io lo accetto in pieno, perché, però quando lo porto sull'analisi concreta dico no, perché qui non si trattava di separare la teologia dalla scienza, si trattava di impedire la scienza, cioè una cosa pesantemente diversa. Cioè, c'era anche questo nel meccanismo della censura, cioè quello di invitare o addirittura stabilire che era impossibile, vero, la unità, oppure che su questo punto ci pensavano le autorità ecclesiastiche a stabilire l'unità, non era compito dello scienziato, ma la censura riguardava la possibilità di sostenere dottrine scientifiche, indipendentemente dal fatto che se ne sottolineasse gli esiti metafisici. Questo è l'aspetto diverso dalla questione supponente, ed è su questo in fondo si è discusso, non sul vantaggio di impegnare gli scienziati nelle discussioni razionali, anche se non c'è dubbio che in altri paesi tutti riferiscono una situazione molto diversa, per esempio l'Inghilterra, che ormai si è citata 500 volte, non è che non ci sia la censura, non è che non ci sia il controllo ecclesiastico, è chiaro che la censura è un meccanismo razionale, funziona tanto meno efficacemente quanto più è razionale, funziona in maniera tanto più distruttiva quanto più è imprecisa, perché esiste, i precetti negativi non sono chiari e si allargano, davanti alla coscienza l'impressione del proibito si allarga e quindi funziona come meccanismo, questo è un meccanismo mai stato studiato, ve lo dico molto chiaramente. Quindi, secondo me, bisogna distinguere tra l'invito a non occuparsi di metafisica, in un astratto, non ho gli elementi per definire se ha funzionato in concreto positivamente o negativamente, anche se indubbiamente siamo attenti a non reintrodurre i nostri concetti odierni di scienza dei suoi rapporti con la filosofia in una situazione dove i concetti dei rapporti della scienza e filosofia erano totalmente diversi, dove filosofia naturale indicava delle cose miste, secondo il nostro concetto, e dove tutti questi erano scienziati in quanto erano filosofi, secondo la loro coscienza, non la nostra. Oggi noi non avvertiamo più questo tipo di problema, a meno che non discutiamo di creazionismo o di cose di questo tipo, non ci arriviamo a incrociare con altri tipi di tecniche. E poi quanto riguarda la storia del pensiero scientifico, la storia della tecnica, naturalmente io mi guardo bene la risposta, mi sono domande sui fondamenti di questo tipo di lavoro, direi forse addirittura sui fondamenti del lavoro dello storico, non solo dello storico della scienza, non a caso Hieralys derivava dall'analogia con la storia della politica, con la storia del pensiero politico, è un caso secondo me molto plausibile quello del rapporto tra storia del pensiero scientifico e storia della scienza. Direi che in chiave tradizionale c'è una distinzione tra le due cose. In chiave teorica non ci dovrebbe essere, nel senso che il pensiero, anche se c'è, ripeto, una tradizione molto viva, di cui tutti personalmente sicuramente sono eredi e di cui non ci siamo liberati, ma che non dobbiamo accettare come una distinzione fissa da proporre. Quindi sulla storia del pensiero scientifico tu dici ha esercitato, ti sembra logico che abbia esercitato un'influenza la metafisica, la filosofia, le teorie generali, eccetera, sulla storia della scienza, diciamo, questo si potrebbe riformulare, non perché non fosse chiaro, ma io lo rimacino, lo digerisco per accettarlo in questi termini, che stamani in fondo erano anche emersi, che ci sono degli ambiti della ricerca scientifica concreta che si svolge nel Seicento, dove c'è una totale neutralità. Baldini ricordava alcuni di questi ambiti, la storia della meccanica, gli aspetti più tecnici degli sviluppi della scienza, ci sono problemi lì, non c'è obiettivamente, ma Campani fabbrica canocchiali, è un uomo che appartiene alla storia della scienza, non ha nulla a che fare con la controriforma, ora dico, faccio un caso, e si potrebbe, gli ingegneri che fanno le regimazioni fluviali sono all'interno della storia della scienza. Tu dici forse sono capito bene, non sono all'interno della storia del pensiero scientifico, oppure sono meno interessanti. Cioè vanno riunificate, sei per la riunificazione di questo. Ecco, quindi dico io la rivivo in questi termini, ci sono ambiti che sono tutt'altro che da strutturare, cioè dobbiamo stare attenti a non privilegiare una storia della scienza che è la storia letterata della scienza, cioè la storia scritta, la storia rimeditata, la storia dei metodi scientifici, questo è dei mali fondamentali della tradizione storiografica italiana, quella di aver fatto piuttosto la storia del metodo scientifico che non la storia della scienza, no? È una tradizione anche dura morire. Anche in questo senso io la vedo questo problema. Ci sono aree significative e quindi non da emarginare, non da considerare, vero, minori rispetto alle altre, sui quali i meccanismi censori non hanno avuto nessuna influenza e quindi non si può accampare quella giustificazione per spiegare gli eventuali ritardi. Poi sulla crisi, e lui qui chiudo, scusate, sulla crisi che qui è stata, mi pare, prevalentemente accolta come chiave di lettura, certo nostra evidentemente, di quello che avviene in Italia nella seconda metà del Seicento, è molto difficile tanto misurarla. Direi che però su un piano di letteratura comparativistica con altre situazioni storiche, intanto si è visto che è disomogenea, non è uguale dappertutto, né per discipline né per geografia. Però in fondo, ecco che in un ambito di disciplina fisico-matematica, ma qui sono state date anche alcune ragioni, questo avvenga mi pare scontato. Io personalmente ieri l'ho detto molto chiaro, lo ripeto ora, santo e vivoci, non credo affatto che si possa imputare ai meccanismi censori la responsabilità piena di questo fatto. Credo che sia una delle concause, credo che tra le varie ragioni interne, ambientali, altro tipo, noi non si debba, vero, contrariamente a quello che faceva tutta la tradizione, dava solo a questo il compito, oggi non si deve fare neanche il rischio contrario di rovesciare tutta la situazione e di trovare le motivazioni tutte all'interno. Ecco, quindi in questo senso io ho trovato l'intervento di Schiera molto stimolante, ripeto che già si potrebbe parlarne per delle giornate. Un momento suo e andiamo a mangiare. Torrini, non ci dimentichiamo che quando Cartesio elabora la geometria analitica, quindi la elabora perché ha una certa posizione filosofica, Fermat elabora all'incirca la stessa cosa senza la filosofia di Cartesio, indipendentemente da Cartesio. Matematicamente, il metodo di Newton per la fondazione dell'analisi è diverso da quello di Leibniz, ma le loro diversità tecniche non sono affatto rapportabili in modo immediato a diversità religiose o teologiche o metafisiche. Le valutazioni si tratta di differenze concettuali che non sono la proiezione immediata in campo matematico di posizioni precostituite esistenti in un ambito diciamo filosofico. Uno può tentare di mediarli, però chiaramente la mediazione è un po' una cosa molto complessa. E poi direi un'altra cosa, che si è detto, e una cosa su cui io penso che avremmo dovuto parlare da stamattina e mi penso che abbiamo, che diciamo certe categorizzazioni moderne non sono dell'epoca, è ovvio, no? Cioè la parola fisica non significa oggi quello che significava nel Seicento, la parola metafisica nemmeno, e questo forse ce lo dimentichiamo, la parola matematica nemmeno. Però attenzione a pensare che oggi queste cose sono differenziate in modo maggiore di quanto lo fossero allora. Lo erano allora in certi casi più di oggi. Per esempio la differenziazione tra matematica e fisica esiste la prima di Galileo in modo formalizzatissimo, come tu sai bene Galileo, esiste nella tradizione dell'aristotelismo. E la distinzione tra le competenze del matematico come calculator, va bene, e del fisico come indicatore di cause reali, è una distinzione che viene direttamente dal Medioevo, viene da San Tommaso. Quindi, attenzione, non dobbiamo pensare, diciamo, a certe cose in questi termini così, diciamo, un po' mercati. Quando noi facciamo una distinzione nel Seicento fra filosofia e scienza, è vero che la distinzione non è facile con i criteri attuali, ma non è vero che non esistessero allora criteri per una tale distinzione. Anche se la distinzione operata con quei criteri non corrisponde a quella che noi possiamo fare oggi con i nomi. Non so se mi sono spiegato. Sì, però il nodo è Galileo lì, no? Quello che tenta di rompere. Galileo, secondo me Galileo non è che diventa questa distinzione. Potenzia no, no, lui cerca di romperla. Cerca di romperla, però. Cioè, questo è il punto, no? Cioè, cerca di romperla. Ma scusate, io due cose sole volevo dire. A proposito di questa cosa di Castiglio, no, una spiegazione. Cioè, io te devo dire, non già che si spieghi la matematica, dei vari tipi di approccio matematico attraverso le varie metafisiche. Devo dire semplicemente nel caso per esempio di Cartesio che c'era una forte impostazione di carattere, diciamo più generalmente filosofico, in cui c'era un rapporto molto specifico e senza cogliere quella c'era una difficoltà a cogliere l'altra. Per rispondere a due cose che ha sollevato Schiera molto velocemente, bisogna, secondo me, da tanto stato Gallucci, il problema della modernizzazione, certo bisogna stare molto attenti, perché è evidente che ai nostri occhi, ad esempio, potrebbe apparire molto più moderna la prefazione che Osiander mette al dell'evoluzione di Copernico di quanto invece sia il tempo di Copernico, cioè un'interpretazione convenzionalistica della scienza. Per quanto riguarda invece il problema del rapporto modernizzazione e diciamo specializzazione in qualche modo, beh, qui c'è da dire ad esempio che non è mica poi tanto vero che gli scienziati italiani furono costretti a specializzarsi, certo in alcuni casi anche, però se poi si va a vedere di fatto quello che è, se si può così dire, il percorso sempre modernizzando di quello che era, è stata quella scienza settecentesca, ad esempio la fine diciamo della totalità delle scienze e l'introduzione delle discipline specifiche, vale a dire la fisica, l'ottica, la chimica eccetera, è un processo che avviene in realtà questo principalmente fuori dall'Italia. Se noi prendiamo appunto tutta la monolitica che nasce tra la fine del 600 e i primi 20-30 anni del 700, poi ci troviamo che l'Italia, che avrebbe dovuto godere teoricamente del fatto di essere spezzettata in vari settori, in realtà è tributaria all'estero, i manuali italiani sono molto tardivi diciamo rispetto a quello che invece avviene fuori d'Italia e siamo costretti in qualche modo a introdurli, a adattarli, molte volte a tradurli eccetera. Quindi il problema della diversificazione delle discipline scientifiche non va di pari passo con questo diciamo con quest'obbligo di studiare questioni specifiche, anche perché qui concludo. Non, secondo me, forse anche per errore nostro, non si è forse sottolineato abbastanza la specificità del periodo di cui stiamo parlando. Cioè, per dire, non tutti i periodi sono uguali, insomma, no? Nella storia del pensiero in generale e nella storia dei vari pensieri in particolare. Cioè, qui siamo tra il 1600 diciamo, e il 1670-80. È un momento un po' particolare quello che è la storia del pensiero scientifico, vale a dire si sostituisce completamente l'immagine del mondo così come grosso modo si era venuta configurando fino allora con un'immagine completamente diversa. Quindi voglio dire, mentre in fondo, prima della censura, mentre in fondo per uno personaggio come Cardano, come Pomponazzi, in fondo non aver letto un certo libro o non essere stato al corrente di una certa ipotesi, per Campanella, per Bruno, beh, in fondo non cambia moltissimo, non cambia il suo pensiero, non gli impedisce l'accesso a determinati nessi, beh, nel 1650 la situazione è completamente cambiata. Cioè dire, non essere al corrente, non a caso nasce qui, in questi anni, il problema del primato sulle scoperte scientifiche, il problema della concorrenza, eccetera. Essere privi, diciamo, per 20-30 anni di comunicazione, o della possibilità di leggere certi testi, o di discuterli anche, perché questo è altrettanto importante, beh, questo modifica completamente, insomma, il discorso. Questo lo si vede, appunto, per l'Italia in certi settori specifici, il problema del calcolo, che non è un problema di censura, o invece il problema di censura, che sono la cosmologia, eccetera, l'astronomia. Cioè, vedete, è un momento un po' particolare, cioè, non a caso, dico, questo tema della censura, eccetera, per quello che riguarda la storia del pensiero scientifico, la storia della scienza, è molto forte in questo periodo e viene così, diciamo, avanzato. Perché è un momento un po' particolare, in cui escano continuamente. Il problema del vuoto, voglio dire, in Italia, lo dicevo prima, insomma, l'esperimento del primo torricelliano viene fatto da Torricelli, viene fatto qui. Però il problema in Italia non trova nessuna, diciamo così, esplicitazione, e passa invece attraverso Pascal e Boyle. Voglio dire, perché? Perché per questi rimangono tagliati fuori, ritornerà molto più tardi. Quindi, voglio dire, bisogna cogliere un po' anche la specificità del periodo di cui ci stiamo occupando. Grazie Paolo.